Professor Giampiera Arrigoni über Fachofen, Historico delle Religioni e Mitologo zu hören. Und anschließend daran wird dann Diskussion sein zu den beiden Bachofen-Referaten des Vormittags. Bitte sehr. Il 1854 fu un anno d'oro per la storia della mitologia e della religione greca in Germania. Appare la Griechische Götterlehre di Emil Braun, il segretario del Reale Istituto Archeologico Prussiano in Roma. La Griechische Mythologie di Eduard Gerhard, volume primo, di Griechischen Göttheiten. E, per finire, destinata a larghissima fortuna, la prima edizione della Griechische Mythologie di Ludwig Preller, dedicata a Friedrich Gottlieb Welcker, che stava ultimando, ormai vecchio, la sua annosa Götterlehre. Il primo volume è uscito nel 1857. Nel settembre dello stesso anno, cioè 1854, Johann Jakob Backofen scriveva al maestro Savigny la sua più famosa lettera, nota con il nome convenzionale di Autobiografie, e che in realtà tratta dalla vicenda intellettuale del giovane Backofen, all'epoca aveva 39 anni, dal 1839 al 1854. Di questo testo, che non è ancora compreso nei Gesammelte Werke editi a Basilea, testo estremamente interessante e in genere più citato che letto nella sua interezza, come non di rado accadde a Backofen, esistono due edizioni derivanti direttamente dall'archetipo backofeniano, ora alla biblioteca dell'Università di Basilea. All'inizio del 1916, la vedova di Backofen, Frau Luise Backofen-Burkhardt, trovò fra le carte del marito un fascicolo di 60 pagine in foglio in una busta recante il sigillo di Savigny. Si trattava della lettera che Backofen aveva scritto al maestro dal 24 al 27 settembre 1854 con l'intento primario di dargli l'elenco bibliografico dei suoi lavori, ma che poi si era trasformata in una sorta di autobiografia. Con questa lettera era probabilmente conservata anche la lettera di risposta di Savigny a Backofen, datata 19 gennaio 1855, che, ancora visibile nel 1917, è andata perduta. Non compare nella raccolta delle lettere di Savigny curata da Adolf Stoll, Berlin 1939, come ho potuto controllare grazie alla cortesia del professor Christ che me ne ha inviate le xerocopie. L'autobiografia venne pubblicata dunque per la prima volta col consenso della vedova in Germania, a Stuttgart, grazie all'interessamento del professore basileese August Schoetensack nella Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, volume 34, pagine 337-80, per commemorare il centenario della nascita di Backofen, che era accaduto il 22 dicembre del 1915. Questa edizione mantiene la ortografia di Backofen, perfino le sue abbreviazioni, ma non è priva di errori. L'anno seguente, nel 1917, l'autobiografia viene pubblicata in Svizzera, concorde la vedova che fornì pure un ritratto del giovane Backofen disegnato da Paul de Schwanden, per cura di uno studioso locale del Mutterrecht Backofeniano, tale Hermann Blocker, nel Basler Jahrbuch 1917, pagine 298-343. Lo scopo dichiarato era, e cito, riservare finalmente a Backofen il posto che da tempo gli spetta a Basilea. Si tratta di un'edizione piuttosto accurata, ma non esente da qualche errore meccanico di trascrizione, specialmente nei nomi propri. Ha anche il pregio di essere fornita di un breve apparato di note bio-bibliografiche sui personaggi, veramente numerosi, citati da Backofen. Di sicuro Blocker non era un classicista. Dall'edizione Blocker derivano in genere tutte le altre edizioni successive. Una, edita a Monaco nel 1923 in 150 esemplari numerati, col titolo Autobiografische Rückschau, pagine 345, contenente solo il testo senza una riga di introduzione. La seconda, edita a Halle nel 1927, a cura di Alfred Bäumler, insieme con la Antritz Rede del 1841, col titolo Selbstbiografie. Vi è un'introduzione di Bäumler, noto studioso di Nietzsche. L'ortografia è modernizzata, sono corretti i piccoli errori di stampa di Blocher, ma alla fine è omessa un'espressione nel testo. Ho parlato finora di edizioni integrali dell'autobiografia, ma nel 1926 appaiono altre due edizioni di questo testo organizzate in maniera alquanto singolare. Karl Albrecht Bernoulli, privat dozent di storia delle religioni a Basilea, pubblica in quell'anno a Lipsia la sua opera in tre tomi intitolata Johann Jakob Bachofen, un religion, un antiche symbole, nella quale include testi di Bachofen. Curiosamente, l'autobiografia, il cui testo deriva dall'edizione Blocher, vi appare divisa in due parti. Nel primo volume, pensieri memorabili desunti dall'autobiografia, nel terzo, una scelta di passi dalla medesima. Sempre nel 1926, a cura di Rudolf Marx, che io non conosco, non so chi sia, appare sempre a Leipzig una scelta delle opere di Bachofen intitolata Mutterrecht und Religion, eine Auswahl, includente sotto il titolo Bachofens Lebensrückschau, pagine 322, una versione dell'autobiografia brutalmente sforbiciata e abbreviata senza alcuna spiegazione o preavviso. I tagli, che interessano quasi ogni pagina e si estendono talora fino a tre pagine, sono stati eseguiti in parte per evitare citazioni greche o latine, ma a volte sono piuttosto inspiegabili, in quanto interessano anche personaggi della vita di Bachofen e considerazioni personali dell'autore. Così ridotta, viene ristampata nella seconda edizione dell'antologia di Rudolf Marx, uscita nel 1954, proprio in corrispondenza del centenario della lettera stessa a Savigny. Pare che per consiglio di Jung, come deduco da Lionel Gossman, questa seconda edizione dell'antologia di Rudolf Marx, peraltro ampliata in qualche testo, sia stata adottata per la prima traduzione in inglese di Bachofen, uscita nella Bollingen Series, numero 84, a Princeton, nel 1967, col titolo Myth, Religion and Modern Right, con prefazione dell'antropologo Boas e l'introduzione del mitologo J. Campbell. L'autobiografia porta il titolo My Life in Retrospect. Dei tagli all'edizione inglese si è accorto recentemente Lionel Gossman, che decise perciò di leggere il testo nell'edizione Blocher del 17 senza indagare oltre. Bachofen è uno di quegli autori che può mandare in fallimento una casa editrice per l'estensione delle sue opere e delle sue note. Non è qui il momento di affrontare il discorso dei criteri selvaggi adottati nel fare antologie e traduzioni di antologie delle antologie di una o più opere di Bachofen. La mia personale opinione è che, nonostante tutte le ripetizioni, nonostante il numero delle pagine ed il baluardo delle note, che ben inteso vanno aggiornate almeno nei testi antichi, Bachofen debba essere pubblicato integralmente. Questo discorso vale almeno per il Mutterrecht e, a fortiori, per l'autobiografia, se non altro per rispetto umano. Solo così si possono scoprire lati ignoti e a volte insospettati del suo carattere e del suo metodo. Anziché fare un'antologia del Mutterrecht, è assai più produttivo leggere e stampare e tradurre Les origines de la famille di Giraud Telon, edito a Ginevra nel 1874, Giraud Telon, dicevo, che ebbe il dono di riassumere magnificamente l'opera del suo amico. La ragione per cui vorrei parlare qui dell'autobiografia di Bachofen non è semplicemente dettata dal desiderio di dare qualche ragguaglio testuale preciso per evitare che l'autobiografia o il Lebensrückschau siano considerate due cose diverse. La verità è che Bachofen è una di quelle figure di studiosi in cui le concezioni personali sulla vita, sulla società, sulla religione entrano continuamente nella materia del suo studio scientifico, orientandone la prospettiva. Questo nonostante la sua dichiarazione, certamente in buona fede, di voler far parlare i dati. Non è possibile discutere di religione e mitologia greca in Bachofen senza tener conto di quelle che erano le sue convinzioni, fin dove si riesce a capirle, religiose e politiche, prima ancora che scientifico-accademiche. L'autobiografia, come è già stato notato, costituisce con la Griechische Reise, pubblicata postuma nel 1927, e anch'essa non ancora edita nei Gesammelte Werke di Basilea, uno dei documenti in cui Bachofen parla apertamente di se stesso e delle sue impressioni e convinzioni. Ancora, la mia analisi su Bachofen mira a inquadrare e a delineare il metodo del giovane Bachofen. Il vecchio Bachofen era riservato alla relazione del professor Momigliano. L'autobiografia costituisce il primo spartiacque nella vicenda intellettuale di Bachofen, cosa di cui lui stesso era consapevole quando parla di rivoluzione spirituale causata in lui dal primo viaggio in Italia nell'inverno del 1842-43. Quando Bachofen afferma all'inizio dell'autobiografia: «Fu la filologia dalla quale ho preso le mosse a condurmi alla giurisprudenza e fu quest'ultima a ricondurmi alla filologia», si può essere indotti a credere che siamo di fronte ad una personalità volubile o insicura, ma tale impressione è immediatamente smentita dalla semplice dichiarazione che segue: «Il diritto romano è una branca della filologia classica, in particolare di quella latina, e dunque una sezione di un grande complesso del sapere che abbraccia in sostanza l'intera Altertumswissenschaft». Il diritto non è altro che una tessera essenziale per ricostruire la vita antica, l'unica cosa che interessi a Bachofen. In un atteggiamento di questo genere non si stenta a riconoscere l'allievo di un maestro inconfondibile della filologia globale e organica, August Böck, che fu professore di Bachofen a Berlino nei due semestri del 1835. Da lui deriva sicuramente una forma mentis inclina alla ricerca di qualche cosa che, a suo dire, fa difetto ai giuristi inglesi amanti dei dettagli, ossia, e cito, «la veduta d'insieme, il senso, dice Bachofen, delle grandi proporzioni, grazie al quale il singolo particolare trova la sua propria collocazione, adeguata ma subordinata». C'è già implicita in ciò la sua volontà di sistema che l'accompagnerà poi sempre fino al Mutterrecht, un'idea prettamente romantica condivisa anche dal Welker della Götterlehre. Ci fu nel giovane Bachofen un periodo in cui risentì dell'influsso di Savigny e di Jacob Grimm e pensa in particolare al periodo inglese del 1840, cui risalgono i lavori di copiatura dei cosiddetti Anglica, ossia manoscritti del British Museum contenenti la storia degli svizzeri, ivi compresa la battaglia di Pavia, materiale che poi passò allo storico di Losanna, Vuillemin. Inoltre, il lavoro sul Magister Vacarius, da inquadrare nella storia del diritto romano nel Medioevo, o ancora i lavori sui processualisti medievali scovati nell'amata Cambridge, dove peraltro poté integrarsi perfettamente non solo dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista religioso. Dice infatti nell'autobiografia: «Ogni sera e ogni mattina prendevo parte all'ufficio divino nella cappella di Christ Church». Ma nel 1854 Bachofen è decisamente cambiato al riguardo. Diversamente dal diritto romano, afferma, il diritto inglese non reca in sé alcun principio informatore che possa ispirare alle generazioni future la nostalgia del suo possesso e trasformarsi per altri popoli nel punto di partenza per un nuovo progresso. Questo è sotto ogni riguardo il solo ed esclusivo privilegio dell'antichità classica, non del diritto germanico, incapace di istruire, rinfrancare, entusiasmare altri mondi. È l'allievo di Böck ma anche l'aristocratico che parla, quando individua il pregio maggiore delle scuole inglesi nell'intenzione programmata di educare i ceti più elevati del paese, non quella di creare studiosi e funzionari. L'ex studente di Berlino e di Göttingen non poteva che augurarsi che anche nelle università tedesche, in luogo di una preparazione specialistica, si fornisca agli interessati un'educazione globale fondata sulle scienze umane. Prospettiva neumanistica, ma anche posizione politica personale del suo autore, rivelata senza mezzi termini nell'autobiografia. Nel caso, giudicato da lui assai probabile, del trionfo dell'indirizzo materialistico, la scienza potrebbe diventare di nuovo una sorta di sacerdozio, e qui cito, sottratto all'assistenza statale e costretto a cercare asilo nei mezzi privati e nell'attività privata di ogni genere. Allora sarà finalmente possibile realizzare quell'idea ed estirpare con successo il proletariato letterario con tutte le conseguenze negative connesse a questo fenomeno. A quest'epoca Karl Marx ha già pubblicato il Manifesto del Partito Comunista, che, come noto, del 1848, e ha già scritto numerose delle sue opere, e dunque non ritengo improbabile che Bachofen faccia riferimento a lui quando parla di indirizzo materialistico di proletariato letterario. Certo, con totale dissenso. Dopo i viaggi in Francia e in Inghilterra degli anni 1839-1841, Bachofen approda a Basilea, che non abbandonerà mai, iniziando quell'esilio interno che lo ha fatto paragonare a Burckhardt. Sono ben note le sue rinunce nel campo accademico e pubblico, motivate da delusioni politiche, ma anche dettate dalla sua intima natura di ricercatore puro, inevitabilmente a disagio fra i suoi compatrioti, alieni dalla vita contemplativa e più portati ad una vita attiva. Ecco di conseguenza nascere in Bachofen il concetto di patria spirituale, che in un primo tempo è formata da filologia e giurisprudenza. A quest'epoca, immediatamente post-inglese, risalgono il lavoro sulla Lex Voconia, lodato da Mommsen, e quello sulle obbligazioni. Bachofen è visto come un seguace un po' troppo entusiasta di Savigny, ma è tutt'altro che inviso al patriziato locale. Ebbe infatti varie cariche pubbliche, di cui ci ha parlato il professor Momigliano. Resistette 2 anni. Nel 1842-43, d'inverno, parte per il suo famoso viaggio in Italia, la sua vera patria spirituale, grazie all'interesse dell'archeologo e ministro residente di Hannover presso la Santa Sede, Adolf Kestner, conosciuto a Basilea l'estate del 1841. Complice la Geschichte der Kunst di Winckelmann, l'Italia delle antichità classiche gli tocca il cuore. La filologia, senza il contatto con le opere d'arte, dichiara nell'autobiografia, rimane uno scheletro senza vita. Una convinzione tutt'altro che nuova nell'Ottocento, se si pensa a Karl Ottfried Müller, per esempio, che tra l'altro fu conosciuto da Bachofen a Göttingen nel periodo ottobre-marzo 1837-38. La connessione filologia-arte, che soppianta ora il binomio filologia-giurisprudenza, agli occhi di Bachofen funziona solo in un certo modo. L'incapacità di Karl Ottfried Müller di abbandonarsi all'opera d'arte in quanto tale, non esita ad affermare nell'autobiografia, dimostra che erudizione e conoscenza logica non bastano. Al contrario, bisogna abbandonarsi alla percezione winckelmanniana della nobile grazia antica, ormai irraggiungibile ai moderni. Si sente indubbiamente l'influsso di Kreutzer, che dichiarava «mitologo non può essere chiunque», nelle affermazioni di Bachofen sulla necessità di possedere un talento speciale, una singolare congenialità con l'arte, a pochi raggiungibile, exempli grazia, egli dice, al duca di Luin, mirabile esempio di scienza che elegge l'uomo e non viceversa. Non insensibile al romanticismo sentimentale di Heidelberg, Bachofen in Italia individua un campo di studio che lo impegnerà a lungo, l'archeologia tombale, che ha il pregio ai suoi occhi di essere frutto del sentimento, della sincerità e della calda umanità in contrasto con la povertà e l'aridità del mondo a lui coevo. Lungi dall'essere settore specializzato, l'archeologia tombale incarna ai suoi occhi una dottrina, dichiara, davvero universale, un anelito che ancora una volta lo accosta alle istanze di Welker e dei neumanisti. Sapendo leggere con straordinaria chiarezza in se stesso, trova nelle tombe un'antichità consona ai suoi desideri, non solo idealizzata, ma soprattutto alternativa al suo mondo. Ma tombe significa anche origine del culto, dell'architettura sacra e dell'arte, in una parola il concetto di sanctum e di res sancte, immobili ed immutabili e dunque universali ed eterni. A questo complesso appartengono, oltre alle tombe, i pilastri di confine e soprattutto, cosa che sempre affascinò Bachofen, le mura della città, ossia tutto ciò che è piantato nel grembo della terra di cui esprime la forza primigenia. Nella tomba Bachofen vede l'altare, il rito sacrificale, il simbolo, ma un simbolo fermo in una realtà sempre uguale, allusivo e irrazionale, in una parola, kreuzeriano. La Symbolik, un mitologie der alten Völker, era arrivata, nonostante tutto, alla terza edizione, uscita a Leipzig e Darmstadt 1836-1843. In questa prospettiva si spiega anche l'attacco di Bachofen a Mommsen nell'autobiografia, poiché Mommsen razionalizza troppo i romani, che invece Bachofen vede solidamente attaccati alla loro religione e tradizione. Basti pensare alle sue Grundlagen des römischen Staatsrechts, che facevano parte della Römische Geschichte, pubblicata nel 1851 insieme col professore di un tempo e poi suo amico di una vita, Franz Dorotheus Gerlach. Allora, in quella sezione, Bachofen riteneva che la grandezza del mondo romano riposasse non poco sulla possibilità attuata dai romani di un vivo scambio col passato. Cito, il ristoro dalle stanche forze attingendo alle origini della vita del popolo. Vi si potevano leggere esaltazioni del popolo romano in contrapposizione all'età moderna. In nessun popolo, affermava, si verifica quella connessione di Stato e religione come carne e sangue in un corpo, dove naturalmente il corpo rimane a lungo un corpo patrizio. Altrove e in antitesi con i suoi tempi, Bachofen sottolineava che il pregio maggiore del popolo romano era l'attaccamento alla tradizione e ai mores maiorum, secondo una prospettiva romantica della storia, cui invece l'età di Bachofen si contrapporrebbe per quel suo scartare i precedenti e partire solo da se stessa. Col risultato che, se le necropoli antiche, con la loro bellezza, sono capaci di suscitare una prepotente nostalgia di quell'età, i cimiteri moderni non saranno in grado di suscitare in futuro un'identica partecipazione che è via efficace alla conoscenza. La mitologia funebre, ossia illustrata su vasi e tombe dell'antichità, appare a Bachofen una fonte di splendide idee etiche per gli antichi. Qui egli esprime uno dei punti cardine del suo credo mitologico, ossia la funzione morale e addirittura consolatoria dei miti, un'idea ugualmente condivisa da Welker. Non si capisce Bachofen se non si tiene conto che prima di tutto da se stesso esigeva un perfezionamento continuo, progressivo, che lo portò a forme di misticismo. La tensione morale che cerca nei miti è prima di tutto in lui stesso. Roma rappresenta per lui, il viaggio a Roma, rappresenta per lui un arricchimento spirituale, l'occasione di acquisire una più intensa serietà dell'anima per la mia vita futura e un orizzonte più vivo e reale per i miei studi, dichiara sempre nell'autobiografia. Anche nel viaggio in Grecia, l'autopsia dei luoghi celebrati da Omero e Pausania significherà per Bachofen anzitutto uno scenario reale, sempre rievocabile, alle letture classiche passate e future. Nell'autobiografia, Bachofen si presenta al maestro di un tempo, e con straordinaria confidenza a mio parere, in un momento di transizione della sua vita. Venuto a Roma come repubblicano, miscredente, avventuriero, le ultime due qualifiche lo avvicinano al quadro da lui preferito per definire Mommsen, in Italia dichiara che la sua vita è più ricca di quella di qualsiasi re della terra, un paragone di colore monarchico che ricorre anche in Grecia in momenti di particolare soddisfazione. La campagna romana, di conseguenza, nella sua miseria e nella sua miseranda unità, dichiara, è infinitamente più ricca del più splendido reame della terra. In Italia la sua fede nella tradizione di Roma si spinge sempre più addietro e gli fa intravedere origini orientali secondo una convinzione che va radicandosi sempre più in Bachofen e che ha numerosi precedenti nella Griechische Reise. È così che Romolo non è più per lui un Adamo italico, ma una figura a sua volta molto moderna e Roma apice e declino di un periodo di millenaria cultura. Questa fede che riporta da Roma è pienamente travasata nelle Grundlagen del 1851, penso in particolare alla Monarchia di Alba, e in genere nella Römische Geschichte, dove con Gerlach divide la fede nella storicità dei primi re di Roma e in genere la più assoluta fiducia nelle fonti antiche, secondo un orientamento antiniburiano che Adolf Schwegler, professore a Tübingen, nella sua Römische Geschichte del 1853, classifica come nuova apologetica o anche come tendenza apologetico-conservativa. La cui necessaria conseguenza dovrebbe essere, afferma con qualche ironia, quella di credere con Theodor Ruck alla storicità di Giano e di Ercole. Più precisamente, l'ipotesi dell'origine orientale delle civiltà romana ed etrusca nasce nella mente di Bachofen in occasione soprattutto delle sue visite alle necropoli etrusche, ma trova una conferma continua durante il suo viaggio in Grecia nella primavera del 1851, durante il quale Bachofen tenne un suo giornale di viaggio che ora fa parte del Nachlass conservato nella biblioteca dell'Università di Basilea. Durante questo viaggio fece anche dei disegni a mo' di schizzo per aiutare la memoria, ugualmente conservati nella stessa biblioteca. Di questo diario di viaggio Bachofen approntò una versione elaborata e narrativa che egli definisce nell'autobiografia scene di viaggio particolareggiate ma poco scientifiche che sono diventate proprietà di una famiglia nostra amica. In questa versione elaborata mancava la parte finale del viaggio, ossia il passaggio in Arcadia e il ritorno ad Atene, che è tuttora inedita e che non fu rielaborata. L'edizione a stampa uscita a Heidelberg nel 1927 fu curata da Georges Schmidt per conto dell'Università di Basilea. Nella sezione di Micene sono state sacrificate molte citazioni da Omero. La sua edizione nei Gesammeltwerke è programmata per il nono volume. Sia pure parziale e ridotta, la Griechische Reise è straordinariamente importante per studiare l'evolversi del metodo di Bachofen, oltre che, come è già stato eccellentemente fatto, la sua vicenda personale. E penso agli studi di Gelzer e di Andreas Cesana e in parte anche di Lionel Gossman. Qui Bachofen non solo fa molta attenzione a posti come Patrasso o Corinto, che servirono da collegamento specialmente commerciale fra Est e Ovest, ma si immerge anima e corpo nella contemplazione, specialmente di Micene e di Argo. È, per sua stessa ammissione, un volo dello spirito nel passato, con relativa estraneazione dal presente. In particolare, le mura e la porta dei leoni a Micene scatenano in lui la fantasia delle ricostruzioni e riattualizzazioni del mito. Omero e i suoi eroi vagano nel paesaggio che contempla e che lui stesso anima, ma la porta dei leoni apre la sua mente a importanti considerazioni sul simbolismo, che riflettono sì la perfetta assimilazione della teoria kreutzeriana, ma principalmente lo proiettano verso l'Oriente, verso l'Asia, da cui egli dichiara che ogni simbolo proviene. L'Asia è la culla ideale delle religioni. Là i sentimenti sono più caldi e profondi e si contempla il mistero del tutto con più profondo fervore dell'anima, scrive nella Griechische Reise. Solo l'Asia può essere origine e fonte di comprensione di questi geroglifici religiosi che sono i simboli. Analogamente ai simboli, per Bachofen anche le più antiche figure del mito vengono dall'Oriente. Contrariamente alla futile e infantile vanità autoctona di greci e italici, peraltro condivisa sul versante greco da studiosi del calibro di Carl Wilhelm Ferdinand Solger e Karl Ottfried Müller, Bachofen sposa decisamente la tesi dell'origine orientale, di cui vede le tappe nel percorso geografico Asia, Micene, Corinto, Italia, Etruria. In mancanza di scavi, la tomba di Atreo, che lui chiama tomba di Agamennone, non sembra scavata completamente a giudicare dalla descrizione bachofeniana. Il nostro viaggiatore procede per intuizioni, anche impressionistiche. Non cita paralleli per il motivo della Porta dei Leoni, ma l'analizza con rara finezza. Dall'acropoli di Argo, volonterosamente raggiunta con il paziente Dimitri Pomoni, non solo verifica la legge fondamentale per il suo metodo, ossia l'organizzazione del materiale in un sistema regolato dal Gegensatz, dalla Beziehung e dalla Gesamtheit, come aveva imparato da Böck, enciclopedia, ma legge nella pianura di Argo la preistoria mitica, religiosa e perfino economica dei Pelasgi, sulla cui esistenza storica naturalmente non ha il minimo dubbio. I Pelasgi, da lui considerati diversi, ossia anteriori agli Elleni, come in Italia lo furono dai Latini e dai Romani, affermazione che suppone l'emigrazione dei Pelasgi in Italia, contestata già da Schwegler, perdettero la loro nazionalità all'arrivo degli Elleni, con cui si amalgamarono senza grandi conflitti. Pelasgi significa innanzitutto agli occhi di Bachofen agricoltura e religione della natura, includente anche i misteri. Coi Pelasgi nasce il culto della Mutter Erde, che ha grande valore per i vivi e per i morti. Pelasgica, ossia asiatica, è la religione dominata da simbole natura che Omero inevitabilmente rovinerà introducendo una religione antropomorfica e che Platone, a suo dire, tenterà di resuscitare almeno nella parte simbolica. Anche la storia di Argo gli si delinea con una straordinaria chiarezza nella sua origine orientale. Tutto ad Argo porta all'Asia Minore non solo la guerra di Troia, ma anche l'arte e la cultura. Gli Eraclidi segnano l'avvento di una nuova epoca, quella ellenica, e la graduale eliminazione di tutto ciò che è asiatico, cioè in particolare Licio ed Assiro, come i leoni di Micene. Questo processo dura, a suo dire, fino alla metà del V a.C. ed è testimoniato da Aristotele. Ma Bachofen dà della caduta della civiltà pelasgica un'interpretazione di pretta marca moralistica, forse calvinista. La ricchezza porta debolezza e la cultura annienta la disciplina. In questa parabola discendente non manca una componente deterministica, forse desunta dalla fede religiosa personale di Bachofen. Ogni popolo ha la sua epoca, il suo zenith, poi tramonta per sempre. La storia è come il sole che da Oriente va ad Occidente e il percorso ora delineato è Asia, Ellade, Italia, Germania, dove Argo e Nauplia, come già Patrasso, fanno da anello mediano. La storia pelasgica di Argo incomincia con Danao, ma il suo influsso orientale si estende fino ad Agamennone. Bachofen crede alla storicità di figure di saghe dell'antico regno, come egli le chiama, vale a dire di Inaco, Argo, Preto, i ciclopi Lici, Perseo, Bellerofonte, Palamede e perfino Eracle e il suo soggiorno a Tirinto, tutte delegate a testimoniare l'influsso orientale nella zona argiva. Un modo di ragionare che presuppone la mitologia storica di Carl Ottfried Müller, ma applicata all'Oriente come Müller non faceva. Per Bachofen i leoni della porta di Micene sono assiri, ed Argo fu l'anello intermedio della cultura assira che si estese anche all'Italia. In Toscana arrivarono i Lidi, donde la massa di reminiscenze orientali nelle necropoli dell'Etruria, la concordanza di resti argivi con monumenti ceretani e specialmente la propagazione del simbolo in Occidente. Nel giovane Bachofen la tesi orientale, cara a Kreutzer, non è solo una certezza, ma è priva della svalutazione eurocentrica che apparirà ad esempio nella Sage Fontanaquil. Se il primo viaggio in Italia e il viaggio in Grecia, seguito da un breve viaggio attraverso la Magna Grecia, il Sannio e l'Etruria, trasformano l'atteggiamento di Bachofen nei confronti della tradizione della storia, il suo credo politico rimane invariato, ossia antidemocratico, per motivi religiosi. Nella storia della Svizzera, dalla metà dell'Ottocento, ciò che gli è realmente intollerabile è la dottrina della sovranità popolare e la vittoria della democrazia dopo i fatti di Lucerna. Nell'autobiografia Bachofen non esita a dichiarare che, e cito, una democrazia radicale è la rovina di ogni bene e sono soprattutto le repubbliche a doverla temere. Io tremo di paura davanti alla crescita e non alla sua crescita, scusate, e non perché voglia difendere i miei averi, ma perché ci ricaccia nella barbarie. L'origine divina del potere è una delle convinzioni più radicate in Bachofen. A suo giudizio, presso pagani e cristiani, il potere pubblico viene da Dio e chi esercita il potere pubblico, ivi compreso il giudice, esercita un diritto di origine divina. Al contrario, la democrazia è maledetta perché annienta il carattere divino dell'autorità e laicizza l'ordinamento statale che è divino. Più precisamente ancora, afferma, la maledizione della democrazia consiste nel fatto che introduce le sue devastazioni in tutti i campi della vita, attacca con particolare violenza chiesa, casa e famiglia. Quando dice «il motivo per cui odio la democrazia è che amo la libertà», non pensa all'individuo ma al popolo, specialmente ad un popolo pio, timoroso di Dio, rispettoso degli antenati e delle tradizioni, pronto a sacrificarsi per le generazioni future, autonomo nella tradizione a vita. Questa posizione ideologica di Bachofen è interessante specialmente alla luce dello sviluppo che essa ha nel Mutterrecht, dove la democrazia, come la tirannide, è praticata a livello del diritto materno nelle sue due fasi tellurica e demetrica, l'unico che sia egualitario. Il Vaterrecht per Bachofen è la vittoria giusta e inevitabile dell'imperium. La battaglia antidemocratica di Bachofen ha come corrispettivo l'esigenza sempre più prepotente in lui di ricondurre tutta la vita degli antichi alla religione. Solo la religione è strumento verso la conoscenza del mondo antico, non senza la speranza di arrivare a scoprire lungo questa strada qualcosa del valore divino e immortale dei pensieri umani, secondo un'istanza idealistica prettamente romantica. Il primo esperimento di questa nuova chiave di interpretazione è rappresentato da quelle Grundlagen des römischen Staatsrechts, dove la vita pubblica romana è esaminata sotto la duplice visuale della religione e dell'aristocrazia. Con questo scritto, Bachofen si riallaccia per molti aspetti alla concezione medievale della monarchia sancita da Dio che perdura fino alla Rivoluzione francese e oltre con la restaurazione di Luigi XVIII. Viene quindi messa tra parentesi la concezione contraria, inaugurata già all'inizio del Seicento dal giusnaturalismo, a cominciare da Grotius, ossia il tentativo di fondare il diritto sulla ragione, sulla natura, dandogli un'impostazione universale senza negare Dio. Su questa linea, con diverse angolazioni e sfumature, si collocano Hobbes, Locke, Rousseau. La posizione di Bachofen ha il suo più antico precedente in Paolo, Lettera ai Romani, capitolo 13, da lui stesso citato insieme con Bacon nelle Grundlagen, che tuttavia aveva come scopo l'integrazione dei cristiani nell'ordine costituito, uno scopo ben diverso da quello di Bachofen. La tesi delle Grundlagen è non solo che l'autorità viene da Dio, ma che essa aspetta, almeno nei tempi migliori, sempre e solo al re e ai patrizi da lui eletti e consacrati, nelle cui mani risiedono gli auspici. Forse non ebbe davvero torto Mommsen, nella sua anonima recensione del 1851, a ritenere che Bachofen presentasse il Regium Imperium come un papato e lo Stato romano dei primi secoli come una teocrazia. Non è solo il ricorrere di parole come consacrazione o la trasformazione dell'augurato in una sorta di rivelazione, ma anche un certo apprezzamento del papato verso cui Bachofen, protestante e calvinista, ebbe sicuramente delle simpatie. Basti leggere nella Griechische Reise il suo colloquio col Monsignore Nunzio Apostolico in Svizzera e il loro accordo nell'opinione su Pio IX, oppure nelle Grundlagen il suo apprezzamento del papato che, forte della sua fede in una origine divina, ha potuto sopravvivere alle tempeste di due millenni. Tutto lo sforzo di Bachofen è teso a conservare il più a lungo possibile l'imperium nelle mani dei patrizi, mentre la plebs è trasformata in una rispettosa spettatrice della inauguratio di magistrati e sacerdoti. La conclusione non inattesa è che, La sovranità di cui l'imperium è espressione, cito, riposa nella divinità, non nel popolo. La migliore epoca di Roma non ha mai reso omaggio ad altra fede. Con l'espressione la migliore epoca, Bachofen intende sia lo stato divino di Romolo che l'età dell'oro di Numa, cioè un'epoca cui la storia critica o nuova historie è una dizione prettamente bachofeniana, negava storicità. Niebuhr notoriamente cominciava da Tullo Stiglio. La sua esaltazione di Numa come il mediatore tra lo stato divino e lo stato secolarizzato, oltre che grande legislatore, ha un precedente, non si sa fino a che punto noto a Bachofen, nel Numa antiniburiano di Karl Ottfried Müller, da lui scritto a soli 18 anni nel 1815, ora edito da Wittenburg negli annali della Scuola Normale di Pisa 1985. Ma la battaglia contro la storia critica ha qui una posta più alta. Mentre i nuovi storici ritengono che la storia romana abbia a che fare con uno Stato che lentamente a fatica si solleva dai più rozzi stati della società umana, il parere di Bachofen è opposto. La società romana comincia con un'età dell'oro e regredisce verso il potere dato alla plebs. È sua convinzione che, allorché il rapporto si invertì e il popolo pretese per sé il grado più alto, allora l'antica forza svanì e andò per sempre perduta la pace interna. Attraverso Roma, Bachofen cerca la sua età dell'oro e in Romolo e in Numa, giudici per consacrazione divina, c'è un po' di Bachofen stesso che nell'autobiografia dichiarerà, e cito, «Anche l'ufficio di giudice deriva da Dio e chi lo esercita, esercita un diritto di origine superiore». Il mio ufficio di giudice lo devo a Dio, il popolo mi ha solo chiamato ad esercitarlo. Parallelamente, nelle Grundlagen, dichiarava la magistratura in sé non viene dal popolo, ma è di origine divina, al popolo tocca solo la chiamata. L'autobiografia termina con questioni di metodo. È suo proposito fare una ricerca naturale, ossia empirica. E cito, mio maestro è il materiale stesso, prima deve essere raccolto e quindi analizzato e scomposto. Solo con questo metodo empirico, naturalistico, analitico, ritiene che sia possibile, e cito, portare alla luce del giorno una legge scritta nelle cose, non nella nostra spiritualità soggettiva. Sorprende questo appellarsi alla realtà oggettiva in uno spirito non solo molto precisamente orientato in campo di religione e di politica, ma anche allevato alla scuola dei precetti di Winckelmann e di Kreutzer, dell'archeologia dell'abbandono e della filologia della partecipazione e immedesimazione. Non si sa che cosa abbia risposto Savigny alla lettera autobiografica, piena di saggi propositi e di nuovi progetti, scrittagli dal suo dotato allievo. Tuttavia è indubbio che ai suoi amici più intimi, e penso a Meyer Oxner, lettera del 31/7/1856, darà di sé, immerso nella stesura del lavoro preliminare al Mutterrecht, l'immagine di un profeta o poeta intento ad ascoltare le inarrestabili vibrazioni del proprio intimo, non certo l'idea di un imparziale soppesatore di fatti. Con una personalità come quella di Bachofen, esito tuttavia a parlare di contraddizioni. Se vedo bene nel suo modo di analizzare il mito, la duplicità è ricorrente, come mostrerò più oltre, e dunque è piuttosto un segno della sua indubbia complessità di uomo, come ha messo in luce anche lo studio di Thomas Gelzer. Ed ora qualche osservazione su mito e religione nel Mutterrecht. In tema di mitologia e religione greca nel Mutterrecht, vorrei focalizzare l'attenzione sul binomio Welcker-Bachofen, appena accennato da Karl Moily nella sua magistrale biografia di Bachofen, si rivela in realtà un'analisi produttiva, specialmente dopo l'eccellente inquadratura nel suo tempo e nelle sue coordinate metodiche fatta da Albert Henrichs per il Welcker della Götterlehre. Entrambi, Welcker e Bachofen, ebbero il loro periodo kreutzeriano. Entrambi sono seguaci della corrente romantica, idealistica e neomanistica dell'analisi di mito e religione greca. Il confronto che mi interessa è con il Welcker della Esculische Trilogie Prometheus und die Kabirenweihe zu Lemnos, pubblicata a Darmstadt nel 1824, con quella geniale e difficile appendice, che traduco in italiano, sul fondamento storico della saga delle Lemnie omicide. Qui non solo compaiono per la prima volta, da quanto ne so, termini come Weiber Adel, Weiber Herrschaft, Gynecokratie, quest'ultimo fu candidato a titolo del Mutterrecht e attualmente è nel sottotitolo, ma viene svolta attraverso un mito l'analisi di temi che verranno ripresi da Bachofen nel Mutterrecht del 1861, preceduto da una conferenza sul medesimo argomento tenuta a Stuttgart nel 1856. Nonostante un certo sforzo di Moili di preservare in Bachofen il proto-Seuretes del Mutterrecht, senz'altro giustissimo per quanto riguarda la Fitò ed altri cacciatori di stranezze di stile erodoteo, ho l'impressione che la tematica del potere femminile, del nome ricevuto dalla madre piuttosto che dal padre, cose simili, fosse già anteriore a Bachofen e propriamente anche anteriore a Welcker. Si è parlato del matriarcato in Obs, cioè un piccolo studio di Conti Odorisio, dove però si allude più propriamente alla saga delle Amazzoni, che ha poco a che fare con una teoria veramente matriarcale. Ma io non ho finora trovato in Bachofen alcun cenno a lui. Del resto è nota la dichiarata idiosincrasia di Bachofen per i filosofi moderni. È parimenti da escludere un influsso diretto su Bachofen di un libro come La Galerie des Femmes Fortes di Lemoine, la quarta edizione corretta è Parigi 1663, però ve ne sono molte altre poi, perché Bachofen usa in genere un repertorio di donne fornito quale fu quello di Johann Christian Wolff. Più probabile invece che la lettura di libri sulle Amazzoni cita ad esempio il libro di Steiner, Über der Amazonen Mythus in der Antiken Plastik del 1857, ma numerosi libri sull'argomento erano già stati scritti nel Settecento e circolavano anche come curiosità tra i colti, abbia contribuito a dargli un'immagine concreta del Kratos delle donne. Fraser, del resto così impaziente con Bachofen e anche un po' ingiusto, pensava al cattolicissimo barone di Eckstein, tra l'altro grande viaggiatore che rivelò alla Francia le letterature orientali, nato nel 1790 e morto nel 1861, autore di un articolo dal titolo L'écart ou Carien de l'Antiquité, la ginecocrassie de Carien, pubblicato nella Revue archéologique del 1857. Bene ha fatto Moili a cancellarlo come predecessore di Bachofen, visto il giudizio che questi ne dà nel Mutterrecht, e cito: «La maniera di trattare il materiale mi fa ricordare le parole di un famoso italiano, quando accende il suo lume, riempie la casa di fumo piuttosto che di luce». Per quanto riguarda i Cantabri, antenati dei Baschi, e il loro strano diritto di successione, che prevede che il marito porti la dote alla moglie e la riconosca padrona della casa, già Eugène Cordier pubblicò un articolo, Le droit des familles aux Pyrénées, nella Revue historique du droit français et étranger del 1859, che Bachofen utilizzò nei Nachträge del Mutterrecht come una conferma della sua teoria. Ma Bachofen già 3 anni prima, nell'estate del 1856, aveva scritto la conferenza che poi lesse alla Philologenversammlung di Stuttgart il 24 settembre dello stesso anno e fu pubblicata nel 1857, intitolata Über das Wesen des Weiberrechts, che conteneva in pratica il primo capitolo del Mutterrecht, quello sui lici, conferenza che, via Ernst Curtius, Griechische Geschichte, volume 1, 1857, pagina 543, arriverà a conoscenza di Lewis Henry Morgan. Johannes von Müller, noto a Welcker, citava brevemente non solo la Fitò, ma anche esempi di donne potenti e soprattutto le donne galliche della spedizione annibalica, che poi Bachofen includerà nel suo Mutterrecht, senza mai citare lo storico svizzero. Secondo Moili, Bachofen arrivò alla Fitto solo nel 1870, in occasione della sua progettata revisione del Mutterrecht. Ma dopo la Fitto, altri avevano portato avanti la ricerca di singolari costumi interessanti l'area greca. Penso ad un tipo di classicisti e filelleni che sono anche viaggiatori. Uno è un singolare tipo di mercante letterato antiquario, straordinariamente scrupoloso per i suoi tempi, un certo Pierre-Augustin Guy, nato a Marsiglia nel 1720 e morto a Zante nel 1799, autore di uno straordinario Voyage littéraire en Grèce, ou lettre sur le grec ancien et moderne, edito nel 1776, in seconda edizione 1783 e celebrato da Voltaire. Costui, con Omero e Pausani in mano, perlustrò l'arcipelago greco alla ricerca dei nessi tra greci antichi e moderni. Sua è la teoria, contestata dal filologo Larcher, che i greci antichi pronunciavano il greco come i moderni. Forse, poiché Guy era membro dell'Accademia degli Arcadi di Roma, il Voyage littéraire fu tradotto in italiano a Roma nel 1828, 4 volumi in 2 tomi. Di particolare interesse la lettera numero 28 del 3° volume, dove si parla di un uso particolare dell'isola di Metelino, ossia Mitilene, di Lesbo. Tutte le proprietà e tutti i beni stabili appartengono alle femmine e alla primogenita, il che si è cagione della diseredazione dei maschi. Interrogato un mitileniotto, questi rispose che la cosa era pur vera, che il costume era antichissimo, che i maschi di buon grado consentivano accedere tutto alle loro sorelle, per così procacciare loro il miglior accasamento. Da viaggiatore scrupoloso e consapevole del valore dell'autopsia, Guy fece di più per appurare la verità di un costume che non aveva potuto controllare personalmente. Pregò il console di Francia a Smirne, signor Pessonel, di fare una verifica che venne puntualmente eseguita. La risposta è una conferma. Vero è per la rimanente che le antiche leggi dell'isola di Lesbo attribuiscono per l'intero il retaggio paterno e materno alla figlia primogenita, escludendone i maschi che non possono avervi la menoma parte. Gli abitanti dell'isola attengonsi fedelmente a questa legge, quando peraltro gli ufficiali turchi che comandano non li costringa ad adottare l'ordine di successione stabilito dal Corano. Questo costume lesbico trova un'ulteriore conferma in una divertita ed acuta relazione di un altro illustre viaggiatore, l'Earl of Charlemont, idest James Caulfield, 1728-1799, fatta alla Royal Irish Academy e intitolata Account of a Singular Custom at Metelin with some conjectures on the antiquity of its origin. Il contenuto era in sintesi il seguente: al matrimonio della prima figlia, cui i genitori non hanno il diritto di rifiutare il loro consenso, tutte le proprietà passano a lei. Le altre figlie, per mancanza di dote, sono condannate al celibato o nubilato, come si può dire. Se però il padre riesce ad acquisire altre proprietà, una gran parte di esse, se non tutte, deve essere data in dote alla seconda figlia e così di seguito. Dopo 3 conferme arriva la 4ª. Questo strano costume suscita la curiosità di uno di quei viaggiatori classicisti inglesi abituati a perlustrare la Grecia e il Levante, John Hawkins, nato nel 1758, morto nel 1841, il quale, a conoscenza sia di Guy che di Lord Charlemont, va a incontrare nel 1794 a Zante il vecchio Guy con cui parla dello strano costume di Mitilene, lasciandolo con la promessa che gli invierà un resoconto dettagliato della faccenda non appena visitata Lesbo. Alla fine del 1797, quando probabilmente Monsieur Guy era già morto, spedisce la sua relazione dopo aver perlustrato tutto l'arcipelago. In una larga quantità di tali isole, Mitilene, Lemnos, Skopelos, Chiros, Syra, Zea, Ipsera, Mykonei, Paros, Naxia, Sifno, Santorini e Kos, la figlia maggiore prende come dote, al momento del matrimonio, la casa di famiglia con tutto l'arredamento e un terzo o una parte maggiore della proprietà materna. Le altre figlie, man mano si sposano, possono occupare la casa di famiglia ed hanno il diritto alla stessa parte di qualsiasi proprietà rimanga. Vi sono piccole differenze locali nell'osservanza di questa legge, ma la realtà del costume è appurata. Si trattava di trovarne la spiegazione, o come allora si usava a dire, l'origine. Guy e Lord Charlemont ritenevano che questa legge fosse ereditata dagli antichi. Guy la faceva risalire alla fine della guerra del Peloponneso, ma non adduceva prove concrete. Lord Charlemont, al contrario, fece congetture assai più intelligenti e profetiche. Intanto fece appello ai lici, in particolare ai passi di Erodoto, Plutarco, Nicolao Damasceno, in cui si dice che i lici prendono il nome dalla madre, non dal padre, e si parla dell'eredità lasciata solo alle figlie, non ai figli. A questi passi lo stesso Hawkins aggiunge l'importante testimonianza di Eraclide, che non è il Pontico ma Lembo, dove si parla dei lici gynaeco kratoumenoi, cioè comandati dalle donne. Sono in sintesi gli argomenti che interessano già il Bachofen della conferenza a Stuttgart del 1856. Le argomentazioni di Lord Charlemont erano abbastanza stringenti. Scartata l'ipotesi più ovvia che i lici avessero fondato una colonia a Lesbo e quindi trasferito il costume ereditario loro peculiare, opta per la soluzione dei pelasgi che arrivano a Lesbo dopo un periodo di abitazione in Licia. Dunque lo strano costume potrebbe essere arrivato a Lesbo tramite i pelasgi licizzati. Questa ipotesi è bonariamente scartata da Hawkins. Lord Charlemont non è riuscito a provare l'esistenza in Licia del costume praticato a Lesbo, neppure tramite fonti di epoca romana, Plutarco e Nicolao. Coi pelasgi di Lesbo ha semplicemente cercato di risolvere una difficoltà con un'altra. Difatti, nessuna fonte antica parla del costume particolare di Lesbo. Ne consegue che egli nega l'esistenza di tale costume a Lesbo nei tempi antichi. Si pone invece il problema dello scopo di questa legge, che egli chiama legge agraria. Si voleva evitare, egli dice, l'ulteriore divisione o accumulazione di proprietà fondiaria in isole molto piccole, dove il terreno arabile da vigna è assai limitato. La ripartizione della proprietà doveva essere necessaria che la terra fosse perfettamente coltivata. In ogni caso, l'introduzione o l'adozione di tale legge agraria in epoca pagana o cristiana poteva aver luogo solo dopo una nuova colonizzazione dell'isola. La storia dell'arcipelago è ricca di varie invasioni, saraceni, italiani, catalani, barbarossa, turchi e veneziani. Insomma, l'origine della legge agraria non è straniera, ma dipende da cause locali. La lucidità di Hawkins, che con la sua soluzione della legge agraria aveva liberato il campo da ipotesi e congetture di ginecocrazia, non fa presa su Welker. La sua attenzione è puntata su Lemnos, di cui vuol spiegare la ginecocrazia. Fa appello quindi ai gynaeco kratoumenoi noti nell'antichità, facendone un primo elenco abbastanza dettagliato: Celti, Liburni, Sitoni, Lici, Locresi, Sarmati, Egiziani, ma senza dimenticare gli Ashanti africani, secondo una prospettiva tranquillamente comparatistica che non fu certo inventata da Bachofen. Desiderei ricordare la ripubblicazione recente dell'Amerikanische Reise di Alexander von Humboldt. A favore di Lesbi, comandati dalle donne e dunque con quel particolare sistema ereditario licio, Welker adduce la tradizione delle amazzoni che abitarono anche a Lesbo, oltre che in Licia e a Lemna, ossia furono fatte arrivare dovunque esisteva un costume amazzonico. A Lemnos, Mirina è eponima della città omonima. Via Mirina viene istituito da Welker un parallelo fra Lemno e i Mini, che nella saga sono considerati sotto il potere delle donne, in quanto tutti discendenti dalle figlie di Minia. I Mini arrivano a Lemno perché lì esistevano condizioni analoghe a quelle della loro patria. Se non che, ad un certo punto, afferma Welker, la ginecocrazia, sulla cui realtà egli non ha il minimo dubbio, fu sentita come barbarie. Pertanto, ciò che era normale divenne fatto eccezionale, motivato dal crimine delle Lemni. Sono tutte motivazioni poetiche, non solo la ginecocrazia esistette realmente, ma dovette causare molte rivoluzioni e violenze quali il crimine delle Lemni. Fu questa, a suo dire, una scuola per il genere umano, una storia ricostruibile solo attraverso le allusioni contenute nelle saghe. Come la saga delle Lemni, va letta quella delle Danaidi. Welker istituisce inoltre un chiaro parallelo fra ipermestra e ipsipile, che creano il passaggio da una nuova discendenza dove i figli maschi recano il nome del padre, non della madre, in un certo modo alla pater rex. La ginecocrazia a Lemno e altrove fu un fatto strano ma reale, e gli dice, che eccitò ed influenzò la fantasia popolare anche in tempi successivi, ma le saghe, sempre più lontane dalla fonte, si fecero da essa dissimili più unilaterali e più meravigliose. Insomma, immagini di immagini divennero un gioco di figure favolose e senza senso. In conclusione, Welker usa il mito, che li chiama saghe, per ricostruire la ginecocrazia reale in Grecia e altrove, ma sa anche guardarlo con occhio critico, vedendo in Apollonio Rodio non il reale specchio di una situazione antica, ma già il riadattamento poetico di una realtà antica che si è fatta favolosa perché lontana. Via Lesbo o Lemno, i temi del mutterref bacofeniano, ossia discendenza per linea femminile, eredità esclusivamente alle donne, ginecocrazia, strage dei maschi e conseguente passaggio alla discendenza per linea maschile, erano già tutti annunciati, ossia in pratica la fase più propriamente ginecocratica e amazzonica del mutterref. La valutazione che Bachofen dà del sistema ereditario in uso a Lesbo è assai vicina a quella del mitileniotto citato da Monsieur Guy, ma certamente questo non implica di necessità che Bachofen conoscesse il libro del viaggiatore settecentesco. Un fatto è certo, Bachofen non cita mai Welker nel capitolo sul Lemnos del mutterref, ma ne cita l'appendice a partire dalla sezione sull'Egitto, quando affronta il mito delle Danaidi, dandone peraltro un'altra soluzione. Sappiamo che nel 1859 stava rivedendo la parte lesbica del suo mutterref e che proprio allora trovò alcuni passi importanti relativi alle virgines lesbie e alla loro dote, passi che erano ignoti ai suoi predecessori e che gli permisero di risolvere la questione dotale di Lesbo come aveva risolto quella egiziana, ossia inizialmente le fanciulle lesbie si guadagnavano la dote con la prostituzione, ma poi questo costume fu interrotto grazie ai legami religiosi di tipo dionisiaco-orfico esistenti fra l'Egitto tolemaico e Lesbo, con l'introduzione di un nuovo sistema che evitava alle lesbi di essere indotate. Ne consegue che la parte sull'Egitto dovette essere composta fra il 1856-57 e il 1859. La motivazione adotta da Moili per mettere un po' in disparte Welker rispetto a Bachofen è che questi non sfruttò alcune citazioni di Welker sui gynaecocratumenoi, per esempio i Liburni. Ci sono molte spiegazioni per questo genere di omissioni. Simon Pembroke, nella sua revisione di Bachofen, non cita Ninfodoro, che pure Bachofen conosce. Non è escluso che Bachofen avesse riservato i Liburni ad una delle sue numerose aggiunte, specialmente se si pensa, come non è implausibile, che abbia saputo dell'appendice di Welker dopo il 1856, nel corso dei lavori, come spesso succede. Se così è evidente che via Welker poteva arrivare a ricostruire il percorso che io ho ricostruito, poiché Welker cita Hawkins e Johannes von Müller, e questi ultimi due citano tutti gli altri che ho ricordato. Con questo ho inteso tracciare un breve panorama degli interessi anche sociali dell'etnografia nei limiti del mio possibile, ovviamente. Degli interessi anche sociali dell'etnografia sette-ottocentesca, non certo dimostrare la derivazione del pensiero e delle tesi bachofeniane da questi precedenti. Comunque sia, Bachofen ha usato il materiale che stava imponendosi all'attenzione dei classicisti a modo suo, costruendovi attorno tutto un sistema con l'aiuto di mito e di religione. Nonostante Lionel Gozman parli di Welker come di un filologo con cui Bachofen era maggiormente in simpatia, di sicuro i rapporti fra Welker e Bachofen non furono molto stretti, né tantomeno personali. Il giovane Bachofen mostra deferenza verso il vecchio filologo da lui conosciuto a Roma durante il primo viaggio del 1842-43. Welker, tra l'altro, firma il diploma con Bunsen e Gerhard, con cui l'Istituto Prussiano Archeologico di Roma elesse nel 1857 Bachofen membro ordinario, diploma che solo nel 1858 gli fu recapitato da Theodor Mommsen, allora evidentemente ancora ben disposto verso di lui. Relativamente a Dioniso, Albert Henricks ha recentemente notato come Welcker e Bachofen, pur partendo da matrici simili, adottino poi soluzioni tra loro diverse in materia di natura, religione. L'analisi di Dioniso nel Mutterrecht, campione di libertà perfettamente in bilico tra il Mutterrecht più barbaro, cioè più naturale, e il Vaterrecht più evoluto, cioè più spirituale, non può che confermare la sua impressione. Anche a proposito di Danaidi e di sistema dotale lesbico, Bachofen si allontana consapevolmente e non senza una certa superbia dalle soluzioni di Welcker. L'importanza che entrambi danno al mito per ricostruire la ginecocrazia le rende tuttavia di fondo assai simili, a prescindere anche dall'interesse a certi particolari miti. Di essenzialmente diverso c'è la maniera di guardare al mito. Welcker, più smaliziato di fronte ai testi poetici, prende le distanze da Apollonio Rodio e simili, mentre Bachofen fondamentalmente legge i poeti come le pandette o il digesto, prendendo tutto per oro colato. Uno sguardo alla Vorrede und Einleitung del Mutterrecht basta far capire che Bachofen nei confronti di mito e religione elabora i risultati che aveva già raggiunto attorno agli anni 1851-1854. Con particolare insistenza rivendica la tradizione mitica la funzione di testimonianza atta a ricostruire il Mutterrecht, di contro alla cosiddetta selezione critica del materiale della tradizione. Questo vaglio selettivo era operante non solo in Welcker, come si è visto, ma era stato teorizzato in maniera estremamente rigorosa, anche in senso diacronico, proprio in quei prolegomena zu einer wissenschaftlicher Mythologie del 1825 di Karl Ottfried Müller, che Bachofen non cita mai nelle sue opere. Recentemente un richiamo a tale rigore è stato fatto da Albert Henricks, al quale evidentemente io mi associo, aggiungendo semmai la necessità di un apporto iconografico. Nessuno si sentirebbe oggi di condividere il presupposto ingenuo di Bachofen che tutti gli antichi scrittori scrivessero con la stessa fedeltà ed esattezza, nemmeno chi, come voleva Bachofen, fosse posseduto al più grande amore per l'antichità. Analogamente non è generalizzabile l'affermazione bachofeniana che il mito sia un fedele riflesso, parola oggi aborrita nell'analisi mitologica, di tutti i periodi dello sviluppo umano e più in generale della storia, anche se talvolta riusciamo ad appurare che un mito, una versione di un mito piuttosto che un'altra, può avere una funzione e un significato politico. Ancora, che il mito sia l'unico modo disponibile e soprattutto scientifico per raggiungere le origini, senza la cui conoscenza la storia non può giungere a delle conclusioni, è una convinzione di Bachofen decisamente superata, come ben sanno Arnaldo Momigliano e Walter Burker. Bachofen aveva però capito due cose del mito e della mentalità greca, anche se si limita a descriverle, l'antitesi e l'analogia. Il Gegensatz di Buchiana memoria è alternato solo ad un modello triadico, per esempio nell'ordinamento cosmico, terra, luna, sole, con i paralleli nei gradi di sviluppo della civiltà umana, di tipo neoplatonico. Ma soprattutto Bachofen sembra attento a individuare in ogni eroe, in ogni divinità, in ogni stadio di sviluppo, una fondamentale duplicità, una Doppelnatur. Particolarmente interessante è la duplicità di Atena. La dea non è solo... non so se ho tempo per... La dea non è solo sul versante spirituale, lunare, del Vaterrecht, quale Amazzone spiritualizzata, ma anche un versante materno, su cui l'analisi mitologica dei giorni nostri tende a glissare, quando non adottò in passato, e penso a Ferle, ipotesi evoluzionistiche. Se Bachofen erroneamente legava Atena al metron ateniese, confondendola con la Metra Theon, incontestabile è la sua citazione del culto di Atena Metari in Elide, cui si può aggiungere anche una testimonianza euripidea che tormenta gli interpreti. Il problema è tuttora aperto. L'accusa mossa da taluni filologi a Bachofen di collocare le erinni esclusivamente sul versante materno è invece ingiusta e dipende da cattiva informazione. In realtà Bachofen, in tema di erinni, aveva tenuto conto della critica mossa agli a Stuttgart del basilese Wilhelm Vischer, che cioè nel mito di Edipo e di Prometeo, le erinni vendicano l'uccisione del padre. Tuttavia, per salvaguardare la sua tesi e la Doppelnatur delle Rinni, egli non trova di meglio che adottare la soluzione ultima da lui riservata alle Amazzoni, ossia il pentimento spontaneo e conseguente passaggio dalla parte del Vaterrecht. In questo caso, dunque, la Doppelnatur è una vera e propria operatrice di evoluzione storica. Qualcosa del genere, una soluzione del genere, adotta anche nell'analisi del mito di Edipo. Afrodite è anche da Bacofeno equamente ripartita tra Mutterrecht e Vaterrecht, con una estensione polare che la accomuna a Dioniso. Le eroine sono classificate come eroine del matriarcato più o meno estremizzato e quelle del patriarcato. Tra i due estremi spuntano le mediatrici, categoria cara a Bachofen fin dall'epoca delle Grundlagen, e per esempio tra queste è notevole che egli citi Permestra e Ipsipile, già note a Welcker. Le campionesse del Mutterrecht, Amazzoni e simili, per esempio le Danaidi, sono ovviamente le nemiche acerrime del Vaterrecht, che però inevitabilmente, dopo varie lotte atroci, si pentono al principio femminile riconoscendogli tutta la sua autorità. Un epilogo del genere basta a far dubitare delle ascendenze hegeliane attribuite talvolta a Bachofen. Un'analisi che avevo condotto nel 1979 sul mito delle Amazzoni permetteva di risolvere il problema già sollevato da Georg Schmidt se Bachofen ragionasse secondo il metodo induttivo o deduttivo. A mio modo di vedere ragiona in maniera perfettamente induttiva. Vorrei solo ricordare una variazione che si realizza nella sua concezione del mito ed è quella che gli è dettata dal mito dell'incontro di Alessandro con la principessa etiopica meroitica Candace, cui Bachofen dedica un grande numero di pagine. Questo interesse era dovuto alla pubblicazione di Pseudo Callistene nell'edizione di Do del 1846, curata da Karl Müller, contenente anche Ariano e gli altri storici di Alessandro. In questo caso Bachofen non solo si limita a cercare in Pseudo Callistene il riflesso di avvenimenti storici legati al nome di Tolomeo I Soter, alla sua impotenza religiosa, al suo porsi come mediatore tra barbari ed ellenismo, ma va molto più lontano, ammettendo ciò che aveva a lungo combattuto, ossia la possibilità che uno scrittore greco possa adornare, diciamo così, Marte suo, la versione di un mito. E appunto, nel caso di Pseudo Callistene, è disposto ad ammettere che ci sia stato un tipo di adornamento di questo genere. Tuttavia, ciò non impedisce agli occhi di Bachofen di dare lo stesso al mito il suo significato. Anzi, proprio perché staccato da una singola località, secondo l'insegnamento di Karl Ottfried Müller, inventore con Solger dell'analisi coreografica dei miti e da singole persone, ha un significato storico molto più alto. E qui appunto vorrei brevemente riassumere dicendo che Bachofen fa appello al Volksgeist di romantica memoria e introduce un'interessante diversificazione tra Das Geschehen, che sarebbe dato dalla parte storica del mito di Alessandro e Candace, e invece Das Gedachte. La categoria importante è appunto il pensato Das Gedachte, che gli introduce per la prima volta, non senza accostamenti, con Böck. Desidero anche ricordare brevemente che non ha avuto torto chi ha usato per Bachofen la parola strutturalista, e penso in particolare a Hans-Jürgen Heinrichs nella prefazione alla sua edizione antologica del Mutterrecht, se pensiamo in particolare alla importante categoria nell'analisi bachofeniana che ha la mediazione, il mediatore. La mitologia di Bachofen, tuttavia, pur rilevando in lui un grande talento psicologico e una notevole maestria nel descrivere i paesaggi del mito, è quasi totalmente strumentalizzata alla ricostruzione del Mutterrecht nei suoi vari stadi e nel suo evolversi verso il Vaterrecht, e conseguentemente soggetta a quel criterio di valutazione morale più bachofeniano che greco che domina anche questa evoluzione. E direi che basta così. adesso dico, la discussione è aperta, c'è soltanto un punto in cui io vorrei correggere me stesso, per implicazione anche accentuare l'importanza di quello che Giampiero Arrigoni ha detto sulla relazione con Welker e con la parte dei predecessori di Welker. Questa è una ricerca del tutto nuova, di cui le siamo estremamente grati. Ma quello che io volevo qui dire è semplicemente, non ci avevo mai pensato prima, come la contrapposizione con Niebuhr, che è una contrapposizione evidentemente di partito, cioè di tendenze aristocratiche come Bachofen, contro uno di tendenze relativamente democratiche e preoccupate di problemi di riforme agrarie, si rivela anche chiaramente in questa contrapposizione che Giampiero ha indicato con coloro che interpretavano questi problemi di eredità come problemi fondamentalmente sorti da leggi agrarie. Qui invece Bachofen ha evidentemente dietro di sé tutta un'altra tradizione, che è quella di spiegare problemi di eredità, di chi uomini o donne eredita nella famiglia, di come si costituisce la proprietà agraria su una base di evoluzione dal matriarcato al al patriarcato, con ciò tutti i problemi che Niebuhr aveva affrontato in rapporto alla rivoluzione francese sono tutti eliminati. E ancora una volta si conferma questo aspetto nello stesso tempo conservatore ma creativo, è vero, di Bachofen, che va al di là dei problemi che erano qui immediatamente di fronte all'attenzione in conseguenza del movimento rivoluzionario. Un punto su questo, non per mettere in dubbio quello che hai detto, quando Arrigoni accennava a questa ipotesi di una situazione secondo il Ghi che si era verificata dopo la guerra del Peloponneso, così dico, mi sembra chiaro che c'è dietro i passi di Aristotele, la retra di Epitadeo, la missione. No, lui non li cita, non li conosce. Non li cita, però dico interessante. Il problema è questo, di come si è arrivata alla concentrazione della proprietà agraria a Sparta nelle mani delle donne. Ecco. Ma è curioso che lì deve essere molto ignorato. No, dico che questo è un predecessore che l'aveva, sì, che aveva accennato. No, ma dico, lui ha spazzato via, evidentemente non gli interessa questo. Però dietro a questa teoria di una ridivisione può esserci un ricordo di che sono passi aristotelici ben noti. Sì, è solo Hawkins, l'inglese, che così sdrammatizza la ginecocrazia facendo appello così ad una legge agraria. Però a me è sembrato interessante citarlo perché non erano più le curiosità di Lafitau e di altri, era già forse un problema. Ecco. Wir haben verschiedene Wortmeldungen. Herrn Professor Lill zuerst. Entschuldigen Sie, wer sich mit dem 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland beschäftigt, kann hier sehr viel mehr lernen als selber beitragen. Denn das, was unser einer beitragen könnte, werden Sie alle wissen, oder wird sich in diesem Stadium Ihre Diskussionen nicht interessieren. Was ich trotzdem sagen möchte, sind mir zwei, drei Dinge im Vortrag von Herrn Bumiliano aufgefallen, die mich an das erinnern, was uns eigentlich hier im Rahmen dieser ganzen Seminare bewegt, diese Italienbilder und Deutschlandbilder. Inwieweit ist die Beschäftigung mit der Antike oder bei anderen auch Beschäftigungen mit italienischen Mittelalter, auch Teile der Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Italien. Inwieweit werden die eigenen politischen und gesellschaftlichen Meinungen in die Beschäftigung mit Italien eingebracht? Gewissermaßen so, als ob sämtliche politische Strömungen der sich formierenden deutschen politischen Welt zwischen 1820 und 1850 gewissermaßen experimentiert werden in der Diskussion italienischer Geschichte, Vergangenheit und derzeitiger italienischer Zustände. Bei Niebuhr, der die direkte Beziehung zwischen wissenschaftlicher Forschung, diplomatischer Tätigkeit und Kommentierung zeitgenössischer italienischer Zustände. Oder gerade in dem Zusammenhang war mir interessant, was Sie über Bachofen und die päpstliche Herrschaft sagten, die gemäßigt Konservativen, die eben aus der Beschäftigung mit der Geschichte Italiens und mit der Antike dann zu einer gewissen affirmativen Stellung gegenüber den konservativen oder evolutionären Strömungen in Italien gelangen. Während andererseits die Liberalen auch aus der Beschäftigung mit Geschichte und Vergangenheit zu entgegengesetzten Kombinationen kommen. Dies wollte ich nur ganz kurz andeuten und dann, weil Sie freundlicherweise auch auf die Augsburger Allgemeine Zeitung hingewiesen haben, ist es vielleicht für die italienischen Kollegen nützlich, daran zu erinnern, dass dieses Blatt für die Jahrzehnte zwischen 1825 und 1860 eine wahre Fundgrube nicht nur der politischen Geschichte ist, sondern dass eben auch alle diese Kombinationen zwischen geistespolitischen und tagespolitischen Auseinandersetzungen, man denke an den Gorobius und seine Wanderjahre in Italien, dass die in dieser Zeitung ausgetragen worden sind und dass infolgedessen diese Zeitung eine ungeheure Quelle auch für wissenschaftliche Diskussionen zwischen Italien und Deutschland in jenen Jahrzehnten gewesen ist und dass im Hintergrund dieser Zeitung eben das Haus Cotta stand und dass in Marbach im Literaturarchiv alle diese Dinge vorhanden sind und man sehr vieles über die geistigen Beziehungen zwischen, auch in Bereichen wie der antiken Geschichte, eben doch nachlesen kann. Das wollte ich nur einschieben. Ja, natürlich, Sie sind recht, aber können Sie Tatsachen geben? Wir sind nicht hier für leere Allgemeinheiten. Ja, die Beschäftigung, es ist beispielsweise, was Sie sagten, dass also Bachofen nun also in Rom zu einer positiven Einschätzung, zu einer relativ positiven Einschätzung der dortigen Zustände, zu einer Auseinandersetzung mit der Politik kommt, ist eben nur ein Beispiel unter vielen. Dass also die Kombination von Beschäftigung mit Antike und mit dem zeitgenössischen Italien geradezu charakteristisch ist für die geistige Stimmung, die sich also zwischen 1830 und 1860 zwischen unseren beiden Ländern entwickelt hat. Ob das jetzt Bunsen ist oder Kästner ist, dass insofern also diese höchst interessanten Forschungen zur antiken Geschichte dann auch Teil werden der Diskussionen über geistige und politische Entwicklung in Deutschland. Vielen Dank. Ja, aber wir sind noch immer mit leeren Allgemeinheiten. Natürlich kenne ich diese leeren Allgemeinheiten, aber die Probleme der wirklichen Beziehungen, zum Beispiel Croce hat natürlich die Briefe zwischen Bachofen und Gervasio veröffentlicht. Diese Briefe in Lateinisch haben absolut nichts über die politische Lage in Italien. Das heißt, Bachofen spricht über diese Dinge nicht für Italiener, aber für Schweizerische und deutsche Leser. Und das ist die Beziehungen dieser Welt der Schweizer Kultur mit der italienischen Kultur in diesem Periode ist sehr schwierig zu bestimmen in der Einzelheit. Die Lage natürlich von Bachofen war die Lage eines Konservativen, der hat Voraussetzungen in Schweiz, aber nicht wirklich in in Italia, Bachofen hat nie über die Probleme der italienischen italienische Risorgimento nicht mit diesen Problemen beschäftigt war, aber natürlich war sehr interessiert über die Probleme von Savoy. Das heißt, die Beziehungen der Frankreich, Schweiz, der Einfluss von Frankreich über die Probleme von der Organisation der Schweizer der Republik der Föderation in Schweiz. So, über die Beziehungen zwischen Bachofen und Italien, man muss natürlich sprechen, und das ist sehr wichtig, aber das ist nicht dasselbe. Für Schweiz und Frankreich und Deutschland, da sind wirklich das ist wirklich das Zentrum der politischen neurotische Meinungen von Bachofen ist nicht Italien, aber natürlich Schweiz, Deutschland, Preußen und die Beziehungen mit Mommsen natürlich sind unter dem Einfluss, Bachofen denkt an Mommsen als ein Prussianer. Nun, Herr Thiem, Entschuldigung, Herr Professor Thiem. Ja, es gehört ein bisschen dazu, entschuldigen Sie. Ich wollte eine sehr konkrete Frage an Sie richten, wobei ich gestehen muss, dass ich also nicht, Sie wissen ja, ich bin Neuzeithistoriker, so wie ich will, und unser Thema ist ja eigentlich auch ein Neuzeitthema, nämlich 19. Jahrhundert. Für Bachofen habe ich mich nur begeistert, weil ich in der die amerikanischen Gefangenschaft gerade diese Edition gelesen habe, die Sie mit Recht wahrscheinlich kritisiert haben, die Krönersche Taschenausgabe Mutterrecht und Urreligion. Und da habe ich mich sehr viel, das war die Zeit, wo man lesen konnte. Nun, Nun möchte ich Ihnen hier etwas vorlesen. Im Frühjahr 1846 hat Jakob Burckhardt an einen deutschen Freund, bevor er von Basel nach Italien gereist ist, einen Brief geschrieben. Da schreibt er, also die Deutschen und besonders also die Berliner, ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Ihr Wetterkerle, wettert euch immer tiefer in diese heillose Zeit hinein. Ich dagegen bin ganz im Stillen, aber komplett mit ihr überworfen und entweiche ihr deshalb in den schönen, faulen Süden, der Geschichte abgestorben ist und als stilles, wunderbares, und jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort, Grabmonument mich modernitätsmüden mit seinem altertümlichen Schauer erfrischen soll. Ja, ich will Ihnen allen entweichen, den Radikalen, Kommunisten, Industriellen, Hochgebildeten, Anspruchsvollen, Reflektierenden, Abstrakten, Absoluten, Philosophen, Sophisten, Staatsfanatikern, Idealisten, Ahner und Iten aller Art, bloß die Jesuiten werden wir wieder jenseits begegnen, und von den Guten bloß die Absoluten. Fremdlinge pflegen ihnen jedoch auszuweichen. Jenseits der Berge muss ich mit Leben und Poesie neue Beziehungen knüpfen, wenn aus mir für dahin etwas werden soll. Denn mit dem jetzigen Zustand aller Dinge bin ich innerlich ruiniert. Ganz im Stillen, ohne irgendeinen besonderen Verdruss, ganz allmählich hat der Tropfen den Stein ausgehöhlt, bis ich endlich inne wurde, es tut's nicht mehr. Nun, das ist Jakob Burckhardt 1846. Sie haben gesagt, und das ist, hat mich sehr interessiert, das wusste ich nicht, meine Ignoranz, erstens, dass seine Frau, Jakob, dass Bachhofens Frau eine Burckhardt war, wobei allerdings die Burckhardt mit Sekatete so viele sind, dass ich nicht weiß, ob das derselbe Stamm ist und die waren also, aber er war befreundet mit Burckhardt und sie sagten, erst dann haben sie sich entfernt. Aber diese Flucht nach Italien zu den Gräbern, das ist etwas, was diese konservativen Patrizier in Basel, aber auch in anderen Orten der Schweiz, offenbar gemeinsam hatten. Moment, darf ich noch weiter fragen? Dazu kommt, Sie haben mit Recht dann später, und ich glaube, das möchte ich nur für die Kollegen, Sie wissen es natürlich, Sie haben nur angedeutet, Sie haben vom Sonderbund dann später gesprochen, vom Sonderbundeskrieg. Das war ja ein Bürgerkrieg und es war vor allem dann später eben eine Veränderung, eine ganz entscheidende Veränderung, und der Sonderbundeskrieg hat im Schweizer Bewusstsein doch dann eine Bedeutung erlangt, ähnlich wie der Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten, the Civil War. Dieser zwar sehr kurze Krieg, aber hat doch die Umwandlung der Schweiz aus einem Staatenbund in einen Bundesstaat gehabt, und Leute wie Bachhofen waren eindeutig dagegen. Und da kommt jetzt auch die zweite Frage, die ich ja schon an Sie gestellt habe. Sie konnten mir auch nicht beantworten, wir wissen es nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht weiß es hier jemand. Bachhofen war, sagten Sie, Mitglied der Église Française in Basel. Aber der Basler Patriziat waren ja nicht Calviner zunächst, sondern Zwinglianer. Und wann Bachhofen wirklich offenbar aus Konservativismus Mitglied dieser Église Française, dieser calvinistischen Richtung geworden ist, das wissen wir nicht. Vielleicht, Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht. Ich wusste nicht einmal, dass er Mitglied der Église Française war. Ich habe angenommen, dass er wieder der größte Teil des Basler Patriziat eben gewiss helvetischen Bekenntnisses, aber der zwinglianischen Richtung war. Und da erklärt sich aus einer konservativen Haltung auch die Sympathie dann für den Katholizismus, die allerdings nicht zum Übertritt begreiflicherweise führt. Also ich glaube, hier ist eine Parallele zu Jakob Burckhardt in dieser Zeit zweifellos gegeben, und es ist genau diese Haltung, die auch dann zur Trennung von dem ganzen Wissenschaftsbetrieb in Berlin gehört. Denn die können ja auch, die Mommsens gehören, die Mommsen und Konsorten, will ich es mal sagen, die können ja auch zu diesen Wetterkerlen, die sich immer mehr in diese unheillose Zeit hineinwettern, nach der Ansicht von Burckhardt. Das ist eine Frage, nur es ist keine, ich bin ein völliger Laie auf dem Gebiet, wie gesagt, der antiken Geschichte, also wie gesagt, meine zeitweise Begeisterung für Bachhofen während des Zweiten Weltkriegs, also während der Gefangenschaft, bin ich schon sehr weit. Se mi permette di rispondere immediatamente a questo, naturalmente. Le tombe erano di moda, le aveva messe di moda Lamartine, Perché l'Italia è la terra dei morti e noi abbiamo, in Italia abbiamo risposto con si scoprono le bombe e si levano i morti. Dico, questo è il motivo di tutto il risorgimento italiano, è vero, contro la Martin naturalmente. Si scoprono le bombe, si levano i morti. Ora gli svizzeri naturalmente ripartevano questo che era il motto, l'Italia è la terra dei morti. E quindi dico che quello che lei ha citato lì di Burke è estremamente interessante, il giovane Burke, che naturalmente poi ha cambiato opinione in queste materie, ma che lì ripete in fondo la espressione italiana dico questa concordanza tra dei due Jacob Burckhardt è estremamente interessante, ma dico rappresenta un'opinione di carattere generale. L'altra cosa di cui volevo immediatamente, perché come noi ne abbiamo già parlato un momento prima, il problema della posizione religiosa di Bachofen è per me di importanza essenziale e non ne so abbastanza, ed è veramente difficile in questo momento sapere chi mi può dare più precise informazioni sulla evoluzione religiosa, se lui abbia appartenuto prima al gruppo di Zwingli. Naturalmente lì dipende anche dal problema della posizione esatta della famiglia Bachofen nella società. Questi non sono la più alta aristocrazia, sono molto ricchi, con una evidente tradizione di estrema rispettabilità, ma non mai. Ma dico, sia un... mi sono naturalmente posto io questo problema, è vero. Lui compare intorno al 1870 come uno dei anciens della comunità francese. E questo naturalmente non è una cosa che si improvvisa, è vero, quello di diventare anzien, ma quale sia la posizione della famiglia e in particolare sua su tutto questo, dico, come lui sia riuscito a riconciliare le sue simpatie per il papato con San Paolo, questo è una... Il problema è effettivo, ecco. Sì, questo è Lutero, in fondo, il Romano 3. Lo so, ma dico... Lutero e Zwingli non andavano mica molto d'accordo. Sì, appunto, ma su questa cosa dell'obbedienza all'autorità che è da Dio, questo anche Calvino, Zwingli, Lutero, tutti e tre di questo sono d'accordo. Non sono d'accordo nella questione della comunione, ma in questo di San Paolo sono tutti d'accordo, tutti tre d'accordo. Herr Dimmand, erlauben Sie mir, dass ich nun selbst einige kurze Bemerkungen vor Ihnen einführe, bitte, weil sie im Zusammenhang stehen mit dem, was gerade diskutiert wird. Ich glaube, es war der Vorzug beider Referate, dass sie die Komplexität der Person Bachofens, die Persönlichkeit mit all ihren Widersprüchen und in ihrer Entwicklung gezeigt haben. Ich möchte vielleicht durch zwei oder drei kleine Zeugnisse das noch vertiefen, was Sie ausgeführt haben. Das erste, Herr Momigliano, Sie haben mit Recht den persönlichen, fundamentalen Hass gegen Mommsen, Berlin und all das, was zusammenhängt, bezeugt. Ich möchte dazu aus einem Brief an Meyer-Ochsner von 1862 zitieren, wo diese Wendung gegen Mommsen und Bayern, das ist das Neue, hier zum Ausdruck kommt, denn ernste Beachtung verdient ein solcher Lümmel, das ist Theodor Mommsen, eigentlich gar nicht. Der ganze Katzenjammer unserer Zeit liegt in diesem Buche, dessen Krönung durch eine deutsche Akademie Bayern. Ich als einen Hohn gegen den gesunden Menschenverstand betrachte, werde auch nicht unterlassen, diesem München eins anzuhängen, wenn der schwindsüchtige König einen Nervenreiz nötig hat, so mag er ihn in seinem Opernhaus suchen. Die römische Geschichte ist nicht dazu da, jeder Gemeinheit eines verbissenen Dänen zur Unterlage zu dienen. Das ist wieder Theodor Mommsen. Dann geht es weiter. Ich will diesem Hofratskehricht deutscher Residenzen Berlin zeigen, dass der Republikanismus doch trotz allen Verfalls noch etwas gesundere Gehirne erhält als jener unter dem Druck verkommener Umstände, wuchernde, verbissene Groll gegen alles, was jemals Großes auf Erden gewesen ist. Und nun kommt die Quintessenz: Fürchten Sie nicht, dass ich mir damit das Leben verbittere. Ich erwarte im Gegenteil von dem Gefechte einen wohltätigen Rückschlag auf meine Gesundheit und namentlich Erhöhung des Appetits. Soweit also der Brief an Meyer Ochsner. Mitten in der Kontroverse gegen die ja nie schriftlich völlig ausgereift ist. Und nun am Ende, in einem Brief 20 Jahre später, 1880, an Morgan. Ein ganz anderer Standpunkt und nun auch wiederum etwas, was sich die deutschen Professoren vielleicht alle hinter die Ohren schreiben mussten und müssen. Die deutschen Gelehrten, schreibt Bachofen an Morgan, namentlich die Philologie der klassischen Völker, laborieren an einer bedauerlichen Einseitigkeit. Selten geht ihr Blick über die engen Grenzen der alten Welt, ja über die ihrer einzelnen Völker hinaus. Alles wird zuerst isoliert, von jedem Zusammenhang losgerissen und dann nach modernen Tätischideen gesichtet, kritisiert und schließlich ganz verhunzt. Es hängt dies mit den raucherfüllten germanischen Studierstuben und auch mit den engen politischen Verhältnissen des deutschen Volks, dessen Blick an keine Weite gewöhnt ist, zusammen. Endlich wirkt auch eine schon in der Schule großgezogene falsche Admiration der sogenannten Klassizität der römischen und griechischen Welt in derselben Richtung. Römer und Griechen gelten als eine Art Auserwählter, die mit barbarischen Stämmen niemals verglichen werden sollen und jede Ähnlichkeit mit anderen Sterblichen sich von Hause aus verbitten. Für die Stadien späterer Entwicklung ist dieser enge Horizont weniger verderblich. Ganz verhängnisvoll aber für das Verständnis der Urzustände und der ersten Entwicklungsgrade der Völker. Diese folgen überall denselben Gesetzen, und sind in allen Weltteilen dieselben. Sie werden die Entwicklung nicht verkannt haben. Am Anfang das Einfühlen in die Römer, so römisch sein zu wollen, als es denkbar ist. Und am Ende dann die Berücksichtigung der universalen Zusammenhänge der Frühzeit für alle Völker. Das also persönlicher Hass zur Methode. Schließlich noch eine ganz kleine Randinformation. Das Verhältnis Burckhardt und Bachofen. Werner Kegi hat in seiner Burckhardt-Biografie mit Erstaunen und Verblüffung festgestellt, dass beide, so eng sie zusammenlebten, keine Kontakte hatten. In der griechischen Kulturgeschichte, wir haben die Spezialistin unter uns, wird Bachofen ein einziges Mal, wenn ich weiß, ganz peripher zitiert, er setzt sich mit Bachofen kaum auseinander. Er hat das Werk teilweise entliehen aus der Bibliothek, aber eine wirkliche geistige Auseinandersetzung, ein Austausch dieser beiden Individualisten in Basel erfolgte eben zur allgemeinen Verblüffung nicht. Das ist das Erstaunliche in dieser Beziehung. Soweit sie bekannt ist, soweit sie also Kegi eruieren konnte in seiner Burckhardt-Biografie. Eine ganz überraschende Tatsache. Wie Bachofen auf die Zeitgenossen gewirkt hat, das geht aus einem Brief von Curtius hervor, 1853. Er hielt sich einige Tage in Basel auf, damit möchte ich also diese kleine Ergänzung schließen. Und da spricht er nun, das ist vor Bachofens Hochzeit, der merkwürdige Bachofen, der mich, wie jeder Gelehrte, bezieht darin sofort auf sich, der mich im Pugliettino ausführlich rezensiert hat. Junggeselle, Millionär, Romanist, also römisch-rechtler Jurist, historischer Philologe von sehr origineller Richtung. Und nun, das imponiert natürlich Curtius insbesondere, der alle klassischen Küstenplätze am Mittelmeer durchwandert hat. Also das ist der Eindruck, den er als Sonderling machte. Und in dem Punkt, Vandus, haben Sie sicher auf das Entscheidende hingewiesen. Es ist kein größerer Gegensatz denkbar als der zwischen dem Individualisten Bachofen, der allein arbeitet und nun eine geistige Welt bewegt, nicht, und dem wissenschaftlichen Apparat, von dem wir gesprochen haben, bei der Verwissenschaftlichung, nicht, meine, der Antike, in Berlin und all dem, was dazu gehört. Und hier der Idealist, der noch heute wirkt, nicht. Das ist völlig richtig. Ja, entschuldigen Sie, aber nun, Herr Demann, Sie haben schon lange gemeldet. Er hat sich früher gemeldet. Sie kommen sofort rein. Ja. Herr Lehn ist so oft zitiert worden heute, dass er doch in Berlin einmal ein Wort dazu sagen darf. Das, was Sie ausgeführt haben, Herr Chris, ergänzt nur das, was man über Bachofen weiß, dass er ein höchst interessantes Individuum seiner Zeit ist, vor allem bestechend durch seine Unabhängigkeit von Fachgrenzen, auch ökonomisch unabhängig von Schulen und Ähnliches, als Privatgelehrter mit sehr eigenwilligen Ideen hervorgetreten ist. Ein hervorragender Schriftsteller, der immer wieder anregt und glaube gerade für eine Situation in der Gefangenschaft ideale Lektüre ist. Die Frage ist aber nun, wie er in die Wissenschaftsgeschichte einzuordnen ist. Und das ist keine Frage, was auf ihn gewirkt hat, sondern wie er auf andere gewirkt hat, in welche Traditionen er einzuordnen ist, welche Erkenntnisse ihm zugute zu schreiben sind, welche Entdeckungen er gemacht hat, welche Schüler er ausgebildet hat. Und da fällt die Bilanz natürlich etwas anders aus. So ergiebig es ist, wenn wir ihn in die Romantik einordnen, und als ein Zeichen, oder sagen wir ein Ausdruck des Irrationalismus des späten 19. Jahrhunderts verstehen, So interessant es vielleicht wäre, wenn man mal psychoanalytisch an ihn heranginge, nicht wahr? Seine eigene Mutterbindung, überdimensionierte Mutterbindung als Voraussetzung für seine Weimar-Theorie verstünde. In jedem Fall ist er ein würdiges Objekt in der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, aber wenn man fragt, was bleibt von ihm, müsste man die Spezialisten zu Rate ziehen. Was findet man in einem modernen Handbuch der Rechtsgeschichte über die Entdeckung Barocks? Oder in den modernen Handbüchern der Religionsgeschichte oder bei der Archäologie? Für die Geschichtswissenschaft kann ich sagen, dass das, was er über die Ursprünge Roms oder über die Verbindung zwischen Griechenland und dem Orient gesagt hat, oder seine Deutung des Konflikts zwischen Karthago und Rom, allenfalls in eine spekulative Geschichtsphilosophie einzuordnen ist, aber kaum als historische Erkenntnis verstanden werden kann. Was er über die historische Methode sagt, würde ich sagen, ist noch schlimmer. Ja? Diese Form von Intuition, von Ganzheitsmystik und von unmittelbaren Evidenzerlebnissen, nicht wahr? Der Erschauen von dem Großen, war seine Polemik gegen die Liburische und die Mommsensche Sach- und Realkritik, die nun Stück für Stück auseinandernehmen. Für Bachofen ist der Begriff der Analyse schon anathema, nicht wahr? Der wird zerstört in dem Augenblick, wo wir erkennen. Und in dem Augenblick, wo ich einen antiken Autor überhaupt kritisch hinterfrage, dann vergehe ich mich gegen die großen Äußerungen des Weltgeistes. Ich glaube, das sind Dinge, die doch letzten Endes ein totes Geist geblieben sind. Und von daher muss ich sagen, gehört meine Sympathie in der Kontroverse nicht Bachofen, sondern Mommsen. Herr Dr. Casadio. Due piccole precisazioni alla seconda e alla 3-4 osservazioni più generali. Dunque, quanto il libro Guerre littéraire di Guy, mi sembra che sia citato, quindi conosciuto da Bacchus, citato pagina 837, nota 3, sente il nome dell'autore, ma il titolo è l'autore è stato completato a noi, quindi Bacchus lo conosce. Può parlare un po' più chiaro per l'uso di noi italiani? Grazie, io l'accento romagnolo, ripeto, il libro di Guy era noto, che sarebbe uno dei precursori della teoria cinecopratica, citato da Verdi, ma anche Bacchus l'aveva letto. Infatti la mia conclusione era questa, che No, io ho cercato semplicemente di correggere un piccolo dettaglio della dimostrazione di Moili, il quale dice che neanche l'appendice di Welcker ha avuto il benché minimo influsso su Bachofen, in quanto Bachofen non cita alcune testimonianze sui Gynaeco Kratoumenoi. Cioè Moili. Critico, mi permetto, io ho un grandissimo rispetto per Moili che ha fatto una stupenda. Questo conferma la mia tesi, perché, non sono stata a fare le. Se ha qualche cosa da dire di più serio, se no abbiamo da rispondere a quello che abbiamo. Riguardo il professor Momigliano, pure mi sembra. Quando lei dice che per negare l'influsso su Dionisio Apollino in Nietzsche, questa specie di disinteresse di Bacchus per la tragedia, mi sembra che dalla lettura dell'opera di Bacchus, lui è stato il grande scopritore del conflitto tra diritto materno e diritto paterno nella teologia eschilea, soprattutto nelle Eumenidi, fa un'analisi di parte. Intanto lei dice immediatamente una cosa sbagliata, perché naturalmente è Carlo Trenmüller che lo ha fatto questo. Sì, l'ha fatto prima, ma a Bacchus, voglio dire, Nietzsche, per me, secondo me, Nietzsche non può non aver letto Bacchus e meditato per arrivare a questa polarità Dionisio-Capollineo. Se lei mi può provare che Nietzsche ha letto Bacchus, ne sono ben contento. Non stava a Basilea, intanto, era sulla Costa Azzurra. Basilea è stato Basilea, immaginiamoci se non si conosce. Sono dettagli. Metta la bibliografia. Dico, lei non sa che è Carlo Ottfried Müller. Ma io so benissimo che Carlo Ottfried Müller, si parlava del rapporto, siccome è fondamentale la distinzione di Dionisio Capollino, secondo me Bacchus non può entrare in questa serie. Certamente Müller è largamente più famoso di Bacchus, quindi va bene. mentre le osservazioni più generali volevano essere su, rispetto alla relazione della signorina Rigoni, riguardo la figura di Pacolfi come precursore sfortunato purtroppo sia della storia delle religioni scientifiche del Novecento, certe conquiste di questa storia delle religioni comparate, sia delle cronologie storiche di matrice tedesca, diciamo. Quindi 4-5 scoperte fondamentali, secondo me, che non sono state minimamente sfruttate, lo dimostra il fatto che lui, per esempio, non è citato affatto nella bibliografia di Camden, che fa un fragmento, il suo saggio sullo stabilità e clere della dottrina ortica, è completamente ignorato, non è citato per Gruppe, in Gripsi e Culte, che pare. Un momento, io non ho inteso qui fare il bilancio. No, perfetto, però non ho voluto fare il bilancio di Bachofen, se volete ve lo faccio, però un'altra ora. Volevo dire semplicemente 3 o 4 per scoprire il concetto di dottore, per favore, lentamente, mi dà 2 minuti e finisco, si è parlato, il concetto di Kulturstube che ricorre di continuo nell'opera di Bachofen, appunto per rappresentare questo concetto globale che lui ha della cultura, ovviamente il culturismo che lo chiama dell'eterismo, quello della ginecografia e quello del patertum, quello del patriarcato. Ecco, questo concetto di culturismo si ritrova nella scuola viennese, già berlinese, di Grebner e di Padre Schmidt, e quindi nel Kulturkreis, che per quanto criticato da tutte le etnologie anglosassone successive, è stata una conquista fondamentale, secondo me, per le etnologie e quindi anche per una certa storiografia che non voglia chiudersi rispetto alle altre scienze. Ma questo qui è stato completamente ignorato. Si è insistito molto, e quindi questo va pure accennato, si è insistito molto, certi etnologi americani, però curiosamente Löbig, che è nato a Vienna e quindi era tedesco, perché in generale nel mondo invece non tedesco non è letto la Bachofen, si può da fare. E non è vero. Il funzionalismo di Bachofen. Perché questo suo modo. Guarda, lasciamo andare. Il fatto di prendere questa cultura in maniera globale, di vedere la religione, magari esagerando, di vedere la religione in genere, le tendenze spirituali come influenti sopra la cultura, sopra l'economia, sopra il modo di diritto matrimoniale, questa qui è una grande scoperta di Bachofen. Magari c'è stato anche Pustel de Coulan, c'è stato John Mayne, eccetera, eccetera. E questo è solo di recente stato diciamo inizio del Novecento, da Frank Boas, che non è George Boas, è un antropologo, mi sembra che George Boas sia più un filosofo. E poi la donna, il rapporto donna-terra, che è stato ripreso da Dietrich in Monterrey, insomma, tutte queste. No, questo posso risponderti immediatamente, insomma, nonna. Sì, ho finito. Monsignor, il problema qui è stato posto dal professor Demand. C'era un problema di epistemologia storico-religiosa. Qui non si può fare, sono 3-4 cose. Naturalmente uno non è venuto a capo, tutto è finito, chiuso. Se si vuole solo fare del discorso sulle fonti di Bachofen e sulla cultura di Bachofen, così nella letteratura di viaggi e nell'archeologia e tutte queste. Io facevo un discorso nel mio piccolo, io sono un storico delle regioni, quindi siccome anche Bachofen ha provato a contare con la storia delle regioni, anche un grande etnologo, come il fondatore delle scienze, in un certo modo di vedere la storia della civiltà, che poi si è chiamata metafisica della storia, tutto quello che si vuole, però prima di lui non c'era, e dopo di lui è stato interpretato male, è stato sfruttato da destra, da sinistra, è stato sfruttato da Julius Evola, è stato sfruttato da Engels, naturalmente misinterpretato, quello che si vuole. Però la cronologia storica, anche un certo tipo di storia religione, naturalmente travisando anche, ha attinto a questo grande testa. Ma immaginiamoci un po', lo dico, padre Smith ha studiato Bachofen profondamente. Padre Smith ha letto tutto quello che c'era, non è che ha fatto così, ma attraverso McLennan, ai primi Tilmerici, attraverso Boas, attraverso Morgan, ovvio, non attraverso Bachofen, lì che l'ha fatto, lui è stato ignorato, lui ha gettato un seme, ma è stato sfruttato. Ma dove, ma cosa dici? No? Come cosa dico? sì, ma lasciamo andare. Ritorniamo a professor Demant, cioè sì, alle cose serie. Vabbè, ognuno ha le sue cose serie, guardi. Lei è un pochino monoteista, lasci perdere. Va bene, dico, io sono per i fatti. Ma questi sono fatti, ma che discorsi sono? Che McLennan conoscesse, che non sia sempre company, anche Lubbock è scoperto, e poi anche Mock, che sono quelli che hanno inventato la cronologia storica. Evoluzionistica prima, che poi inventando quella storia di relazione. Non mi sembra più assurdo, come dici tu. Posso rispondere al professor Demant? Ecco, punto tu, rispondi al professor Demant. Cioè, io penso che l'obiezione del professor Demant rifletta delle aspettative naturali, però credo di interpretare bene il pensiero anche del professor Momigliano. Non abbiamo voluto qui dare il riassunto, che so, di tutte le posizioni attuali nei confronti di Bachofen. Come tutti sanno, la bibliografia di Bachofen è sterminata. Per esempio, lei ha accennato al rapporto con la psicanalisi, esistono delle ottime monografie dedicate da specialisti, come io non sono di psicanalisi, al rapporto Freud e Bachofen. Molto più interessante forse era qui esprimere l'influsso di Bachofen in Italia, cosa che io ho cercato di curare in particolare per l'Italia. Però avrei allungato di molto la mia già pesante relazione che ho dovuto mutilare nella parte finale dove trattavo anche della terra. Secondo problema era che io nell'affrontare in particolare il problema del Mutterrecht non mi sono riproposta di fare un riassunto dei risultati a cui si è già arrivati. Ho cercato di trovare un milieu in cui nasce il Mutterrecht. Poi, sul fatto, se vuoi, tu vuoi discutere della Mutterrecht, ti posso dare tutte le influenze non citate di Bachofen, sia su Albrecht Dietrich, su Otto Gruppe, ti posso fare la storia del... D'accordo, anche sul fatto... Guarda, interrompi e non si parla più finché quello non sta zitto. Non accetto certo trattamenti, tutto qui è. Ma anche io non li accetto. Va bene, io non lo parlavo neanche con lei. Abbiamo scelto un Bachofen che era poco conosciuto, con i problemi che esso presentava. Ripeto, tanto la Griechische Reise, l'autobiografia non sono stati pubblicati se non post mortem. Abbiamo quindi cercato così di affrontare più vicino possibile il problema Bachofen, che è veramente un problema perché non è così evidente. Posso al professore di prima, non mi ricordo, Lill, che era molto interessato così al rapporto di Bachofen con la politica italiana. Nell'autobiografia dà della rivoluzione del 48 a Roma una descrizione carnevalesca, introduce le Amazzoni accanto a Garibaldi. Cioè è un osservatore divertito, l'Italia che gli interessa non è quella della rivoluzione di Garibaldi, ma semmai l'Italia appunto delle tombe dell'antichità e della campagna romana, l'Italia che dopo i contatti naturalmente con numerosissimi contatti con italiani, con Sclopis e con un sacco di altre persone che circolavano attorno all'Istituto Archeologico Germanico. Io non ho trovato perlomeno nessuna testimonianza che Bachofen parlasse con loro di politica, con nessuno. Le uniche testimonianze che ho trovato, ho cercato di utilizzarle, ecco. Forse l'unico con cui parla apertamente sono Meyer-Oxner e qualcun altro dalla cerca più intima, non mi risulta che facesse il suo billatore né di aristocratici né di democratici, ecco, no? Darf ich eine kleine Bemerkung machen zur Organisation? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Seit langem hatte sich Herr Professor Borbein um das Wort bemüht und es noch nicht erhalten können. Ich würde ihn gerne sprechen lassen und dann Herrn Wandruschka. Aber ich bitte um zwei kurze... Jung vielleicht mehr als Freund. Ja. Ist schon gut. Also dann Professor Borbein, und wenn Sie wollen, dann noch ein kurzes Schlusswort, aber dann müssten wir Ende machen. Herr Professor Borbein, bitte. Ja, ich kann mich auch ganz kurz fassen. Mir ist so aufgefallen, dass Bachofen trotz allem, was er gegen den Wissenschaftsbetrieb äußert, er doch in vielem genau das macht, was ja auch andere Leute in seiner Zeit an der Altungswissenschaft, glaube ich, denke vor allem an die Archäologen, gemacht haben, so seit 1840-50. Das drei Punkte sagen. Erstens nicht mal Gräber als Alternative zu den Statuen Winkelmanns. Das haben durchaus auch andere Leute gemacht, das war ganz üblich. Und was übrigens die Archäologen anbetrifft, da hätte man den, vielleicht noch den Kompagnon von Gerhard Panofka nennen können, der sehr stark in der Richtung, ich war von Bachungen angelegt, ja, war und der sehr stark kritisiert worden ist und der auch deshalb völlig in Vergessenheit geraten ist. Nicht? Er ist aber eine ganz interessante Figur. Das hätte, wenn er länger gelebt hätte, wäre das so eine Art, hätte sowas Ähnliches werden können. Das ist der erste Punkt, also Gräber als Alternative. Und zweitens dieser Vergleich mit anderen Völkern. Nicht? Auch das ist ja zumindest im Verlauf, weiteren Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch immer wieder gemacht worden. Ich bringe das in meinem Vortrag auch kurz, dass man zum Beispiel die geometrischen Ornamente mit solchen, mit der Kunst der Naturvölker verglichen hat, nicht wahr? Und überhaupt also versucht hat, nicht wahr, Vergleichbares, nicht wahr, so in dem Rahmen der allgemeinen Kulturgeschichte, Vergleiche mit gerade mit Naturvölkern zu bringen. Ja, das auch. Nicht? Das ist also durchaus eine ganz übliche Sache gewesen, die man betrieben hat. Und dann auch die Aussage, dass das alles nach denselben Gesetzen erfolgt. Auch das hat man eigentlich immer wieder gesagt, nicht wahr, auch die Archäologen, die auch Darwin verwiesen haben, nicht wahr, gesagt haben, es gibt immer die gleichen Bedingungen oder ähnlichen Bedingungen, gibt es die gleichen Ergebnisse. Auch das ist eine Sache, die durchaus nicht ihm beschränkt war und wo er eigentlich auch zu Unrecht sagt, dass das die Altertumswissenschaftler nicht gemacht hätten. Also bei den Archäologen kann ich mehrere Beispiele dafür anbringen. Und dann fand ich gut, was mir unbekannt war, dass er den Plan gehabt hat, ein symbolisches Wörterbuch zu machen. Nicht? Das ist im Grunde genommen ja auch so ein Korpusunternehmen, nicht? Was er davor gehabt hat. Nicht? Und eigentlich das, was die Leute machen, gegen die er sich immer wendet. Trotz alledem scheint es mir doch so zu sein, nicht wahr, dass Bachofens Verdienst eben oder bleibende Bedeutung darin liegt, dass er eben versucht hat, in dieser Zeit der Industrie, Wissenschaft oder Wissenschaftsindustrie eben das Individuum hervorzukehren und dann eigentlich auch so, dass er zu Meinungen gestanden ist, nicht wahr, die sicher ihre Wurzeln in der Romantik haben und die andere Leute, die ebenfalls in ihrer Jugend ähnlich beeinflusst gewesen sind, eben gar nicht mehr gewagt haben, durchzuhalten. Nicht während der Bachofen einfach ein solcher Individualist war und eben auch ein solches baslerisches Staatsvermögen hatte, nicht, dass er dann eben sich hat nicht beeindrucken lassen. Nicht, und deshalb eben auch in seiner Zeit dann merkwürdig ist, wie so ein Relikt wirkt eigentlich. Das war es. Auch nur einen Satz über Wilhelm Schmidt: findet in 14 Tagen hier in Trient ein Symposium unseres Schwesterinstituts, die Scienze Religiose, statt. Das ist vielleicht ein Schwesterinstitut. Ja. Scusi, non voglio fare domande perché non è argomento su cui io sarei in grado di fare domande, ma vorrei chiamare una cosa: il professor Momigliano aveva iniziato a rispondere al professor Deman, quanto poi è stato sviato da polemiche collaterali, diciamo. Ora, la domanda di Deman era molto importante e credo che tutti vorremmo sentire la risposta di Momigliano, che aveva cominciato e poi è stato così sviato. Ma io, naturalmente, il professor Deman ha posto la domanda più seria, è vero, cioè è questa, è vero, del valore di Bachofen. Che cosa Bachofen ci può insegnare oggi? Ora, naturalmente, questo è precisamente il problema che è davanti di me e davanti a ciascuno di noi. Quello che volevo dire semplicemente a introdurre questo problema è solo questo al momento, non possiamo andare oltre questo. C'è in Bachofen un doppio movimento. Da un lato il movimento della interpretazione del mondo dei morti. Ora, questa interpretazione del mondo dei morti in Bachofen si accompagna con una profonda coscienza dell'importanza del neoplatonismo, cioè della... Ora, naturalmente, e questo significa che Bachofen tendeva a trasferire al mondo primitivo quello che era invece la interpretazione della... Del basso impero, insomma. Però una gran parte di questi monumenti che Bachofen studiava erano monumenti dell'impero romano e anche tali, e perciò il problema della possibilità di usare speculazioni religiose dell'impero romano per l'interpretazione del mondo delle tombe, delle credenze, cosa è reale, e questo lo ha dimostrato poi anche in forma sua, con chi è il vero continuatore di Bachofen per queste cose, cioè Franz Guimond. E lì c'è tutto il problema del rapporto tra le idee di Bachofen e quelle di Franz Guimond, su cui non potremo andare. L'altro punto che a me sembra di notevole importanza è quello che è implicitamente espresso dal mio discorso di stamattina, cioè lo sforzo che Bachofen ha fatto di integrare la conoscenza del mondo antico con la conoscenza del mondo primitivo, moderno, cioè dei popoli primitivi di oggi. Ora dico, questo qui naturalmente è ciò che lo ha portato vicino alla scuola inglese, non è vero, alla scuola. Però nessuno aveva, per quanto io so, qui sono aperto a completa correzione, fatto qualche cosa di questo genere, di paragonabile importanza, cioè lo sforzo di vedere se nelle religioni odierne, in genere nella società odierna, che so io, della Polinesia o dell'Australia o nell'America, e naturalmente anche in India di oggi ci sia la possibilità di comprendere il mondo antico, il mondo classico. Ora, questo qui è uno sforzo che tutti abbiamo qualche cosa da fare oggi, e a me pare che Bachofen di nuovo rappresenti una cosa molto importante. Quindi almeno da questi due punti di vista si potrebbe discutere, ce ne sono molti altri, ma io sono profondamente grato al professor Demann per aver posto la questione essenziale, che è che cosa significa oggi Bachofen per noi. No, l'unica cosa che io ho dovuto abbreviare nella mia relazione era che avevo scelto non a caso il tema di religione e mitologia, perché pur essendoci, per esempio, nella sua analisi del mito, delle idee che sono superate, ce ne sono altre che invece sono operative e estremamente attuali. Una è questa, da quanto mi risulta, Bachofen è il primo che ha saputo scorgere in una divinità, in un eroe greco, degli elementi contrastanti. Cioè, mentre ancora Welcker, Müller danno una soluzione univoca, Müller ha avuto la capacità di vedere questi due aspetti. Vilamovic, naturalmente, per esempio, penso ad Artemis, cercò di isolare di nuovo un solo aspetto, la Göttin des Draußens, mentre invece le ricerche ultime che sono state fatte, no, stanno a dimostrare che Artemis è non soltanto la Göttin des Draußens, ma anche una valenza cittadina e dea anche della città. Quindi a me sembra che questa, forse più intuitivamente, impressionisticamente, sia riuscito a spezzare un'interpretazione univoca, ponendo questa duplicità fondamentale della mitologia e anche della religione greca. Quando poi lui cerca di far rientrare in una linea evoluzionistica per far combaciare, per far tornare il suo schema, allora ovviamente è il punto di partenza che è sbagliato. Un'altra cosa è l'archeologia, per rispondere al professor. Ecco, c'è naturalmente, bisognerebbe fare una conferenza in proposito, però Se lasciamo stare il problema del simbolismo in Bachofen, a me risulta che lui sia stato il primo che si è sempre posto di fronte ai monumenti il problema del senso. Cioè, avrà esagerato poi nel fare le sue lezioni simbolistiche e comparatistiche, però di fronte a Ocnus con l'asina si è posto il problema di che cosa significa, cioè ha spezzato l'esegesi tradizionale, no, che andava alla solita caccia dei paralleli, che è durata fino a poco tempo fa. Ripeto, indipendentemente dalle risposte che lui ha dato, ha posto una domanda esatta. Quindi in questo senso è una lettura utile. Mi permette soltanto, questa è una cosa veramente che dovrebbe dire lui, ma che mi ha detto sottovoce e che è così importante che vale la pena di riportarlo, cioè che forse un modo preciso per poter giudicare quello che Bachofen ha fatto in faccenda di Italia primitiva, l'intervazione e il paragone tra Dennis Cemetery of Etruria e Bachofen, grave simbolico. E questo è certo un lavoro che non è mai stato fatto, e dico questo, riporto semplicemente quello che mi ha suggerito Gabba. Di nuovo qui. Wir danken den Referentinnen, der Referentin und dem Referenten und allen bis zum